un appendice, volevo volgere un pensiero ad Aaron Swartz, che è un ragazzo che insomma, le cronache ne hanno parlato, forse non so quanto in Italia, ma su internet la voce è girata, è quello che ha inventato, o meglio che ha aiutato a creare i feed RSS e anche Reddit, un altro sistema simil social, eccetera eccetera, che in tempi recenti ha subito una condanna penale con una motivazione abbastanza discutibile, perché lo volevano condannare a 35 anni di carcere per aver scaricato e ottenuto, quindi si era procurato da un sito di pubblicazioni accademiche tutte le loro pubblicazioni praticamente. Lui si batteva per la libertà del web e per la diffusione della cultura in maniera completamente gratuita. Purtroppo tutto questo è sfociato in un disagio tale, e Aaron Swartz si è tolto la vita pochi giorni fa, quanto sarà, una decina di giorni fa, e niente, era una brava persona che sicuramente non meritava per questi motivi né di subire la fine, purtroppo questa conclusione è così triste e sventurata, ma neanche secondo me di subire un processo penale per una cosa che dovrebbe essere condivisa da tutti. Le modalità possono essere state un po' troppo dirette, quelle che ha utilizzato lui, ma sicuramente non lo faceva per un sottomacondo personale quanto per una cosa più grande per tutti. Quindi insomma, un saluto, era tra l'altro aveva quasi la mia età, quindi un grande dispiacere per quanto mi riguarda. E niente, tutto qua. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici, bentornati a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica, il primo episodio del 2013. Ci siamo lasciati con il fantastico, simpaticissimo e ultra fantasmagorico episodio che abbiamo registrato a casa di Giuseppe Saso e che era Dietrologia Natalizia. È piaciuto moltissimo questo episodio, ci hanno fatto molti molti complimenti, e quindi galvanizzati torniamo con uno dei nostri temi dietrologici, così a cazzo, ma ne abbiamo scelto uno e diamo immediatamente il via alla trasmissione, dando semplicemente i riferimenti. Stefano Biggio, vai tu con i riferimenti. Sì, ci trovate su Facebook cercando Dietrologia Videoludica, su Twitter cercando Dietrologia Videoludo, che è quello che Pizzi non si ricorda mai, e la nostra casa di posta è dietrologiavideoludica@gmail.com, e poi il sito è dietrologiavideoludica.it. Bravissimo, grazie. Fantastico. Allora, anche in questo episodio siamo abbastanza numerosi, facciamo le presentazioni. Io inizio da chi è qui in studio con me, e ovviamente Marco Gualdi, il distruggitore. Ciao Marco. Ciao a tutti, mi sentite bene? Perché adesso abbiamo una nuova tecnologia che si chiama cavo Ethernet, che ci svolterà la serata. E me ne hanno parlato, la stanno sperimentando. Ma noi Ginevra, ce l'abbiamo in esclusiva, certo, in anteprima. Quindi poi sì. a fine sera faremo anche una recensione di questa nuova invenzione. Sì. Allora, invece, sempre a Roma, però questa volta siamo separati da un cavo virtuale, abbiamo Giuseppe Saso. Buon salve a tutti. Giuseppe Saso, ovviamente lo riconoscete, l'opinionista videoludico che non soltanto oramai è, diciamo, parte della famiglia perché scrive dei fantastici articoli sul nostro sito, e poi tra l'altro dopo ne parliamo perché l'ultimo articolo, vero Luigi, insomma, era abbastanza interessante. Quindi dicevo, opinionista videoludico, Saso, se vuoi dare anche qualche riferimento. Come, scusa, non ho sentito la parte finale. Se vuoi dare qualche riferimento, se vuoi dire due siti. Sì, vabbè, potete solamente, vabbè, a parte ovviamente il sito dietrologiavideoludica.it, dove pubblico a cadenza almeno mensile, poi vorrei scrivere anche qualche articolo in più se ce la faccio. Mi potete trovare comunque sul mio blog su Tumblr, che è vitaingioco.tumblr.com, e da lì trovate, vi si apre il mondo, trovate tutti i miei riferimenti in rete, tra canale YouTube, podcast ai quali partecipo, altri siti dove scrivo, insomma, là trovate tutto. Ok, e la persona super amatissima e super fantasmagorica e super iconizzata, che tra l'altro ha anche un fan che oramai praticamente è diventato parte integrante anche lui virtualmente e non virtualmente di questo team, anche grazie ovviamente a questo personaggio che sto per presentare, che è ovviamente Luigi Marrone. Ciao Luigi. Ciao a tutti. Io mi muovo tutto come stendo quando presento. Infatti voi. Sono a 4 metri di distanza. Io quando parlo gesticolo e allora Marco si scansa. Indica anche delle persone che non ci sono. E infatti, allora Luigi, tutto bene? Tutto ok, sì. Potrebbe andare meglio per diversi aspetti, perché sono sincero e quindi non le nascondo quando le cose magari scendono a picco in maniera più o meno veloce, però quando si registra qui, insomma, su Dietrologia è sempre bello ritrovarsi, per cui alla grande, direi. Ok, fa parte oramai del team di Italian Podcast Network in generale, ma insomma delle trasmissioni a sfondo tecnologico, e non soltanto, è anche entrato a far parte di un altro piccolo network che sta nascendo un'amicizia, insomma non si sa, insomma vabbè, alla fine sta un po' dappertutto. Alex Raccuglia. Ciao a tutti, buonasera, è un grande piacere essere qui con voi. È un onore, devi dire, però. È un onore, perché sono inchinato, faccio fatica a pensare bene quando sono ad altezza terreno. Ok, e ovviamente duetteremo, insomma, in questa trasmissione, come al solito, io che sono Simone Pizzi e Stefano Biggio che è lui, e ricordiamo di Retrocast, che è retrocast.qualchecosa.bo retrocastpod.wordpress.com. Per la precisione, Retrocast su Facebook. Ma Stefano, quello sardo, sei quello sardo, Stefano? No? Sì, senti, sì. Una cosa, ma stai pure tu sdraiato a 90 gradi come Alex? Oppure stai dritto? E dipende da chi perché me lo chiede, Alex? Non lo so. Ma perché Alex? Lui si è presentato, sdraiato, ha detto che era a 90 gradi, che si prostrava, e quindi non so. Ah. Perché lui è emozionato. Infatti non dico perché lui, perché il sardo si è emozionato, ma perché non so, magari sta facendo qualche cosa a 90 gradi, che ne so. No, vabbè, allora cominciamo subito. No, Alex è emozionato. Alex perché è emozionato. Ha conosciuto due personalità che, tra l'altro, è la stessa emozione che ho provato io all'inizio, no? Quando ho conosciuto sia Giuseppe che Luigi. Vorrei sottolineare che le personalità sono tre, cioè tutti tranne te, Gualdi, che già li conosco. Ah, ok. Perché non siamo personalità, soprattutto. Perché pure il sardo lì per te è una personalità. Assolutamente sì. Cioè, io mi sono ascoltato tutto Retrocast e ho imparato da amarli. Grazie della pietà. Sono dei momenti brutti in questa trasmissione, e quindi a questo punto io do il via a tutto quanto. Ok, e come al solito entriamo nella parte viva della trasmissione. Abbiamo avuto ovviamente classici problemi, ma insomma li stiamo risolvendo. Anzi, quasi quasi potrei anche rendere pubblico il link, così se qualcuno ci fa delle domande andiamo anche in diretta, ma no, perché so che già vi state incazzando tutti. Per entrare nel vivo della trasmissione, ovviamente c'è il solito momento, il momento che tutti conoscono, che tutti amano, ed è quello di Stefano Biggio, che ovviamente ci legge il tema dell'episodio, e poi tutti quanti daremo, perché insomma ci teniamo a dirlo, che i podcast IPN sono fondamentali, perché i PN imparano, sono fondamentali per essere imparati nell'italiano, esatto. Quindi, nella lettura dell'italiano, vai. È il corrispettivo di Non è mai troppo tardi della Rai, però solo per me, non so bene perché. Dice, noi oramai è troppo tardi. Poi, ricordiamo che tra l'altro Stefano Biggio è quello che legge. No, io non so, io so scrivere ma non so leggere. Ah, tu sai scrivere ma non sai leggere, ok, ecco, scusa, ho sbagliato. Allora prova a evolvere. Vediamo come va questa volta. Quindi, Tecnologie 3D e sensori di movimento. Il mercato dell'intrattenimento prosegue il suo cammino inesorabile verso questo nuovo modo di videogiocare o di interagire con i dispositivi. Si tratta di smaltimento di tecnologie di ricerca che oramai le aziende si trovano sul groppone, oppure una reale convinzione che questi saranno i modi di usufrutto dei dispositivi del futuro? Sebbene il videogioco di per sé non sia mai stato completamente universale e accessibile, non credete che queste nuove frontiere creino un ulteriore gradino di inaccessibilità, di divisione nel mondo dei videogiochi? Finito. La domanda è interessante, però prima ovviamente di sviscerare il tema, io gli do subito un 4. Così, perché a mani basse. Sì, a gambe unite sono entrato, perché l'altra volta era stato più bravo. E questa involuzione mi sono impappinato un po' all'inizio, dai. No, questa involuzione post vacanza di Natale vuol dire durante le vacanze ha mangiato il panettone, basta. Non ha fatto un cazzo. No. Niente, non è studiato. Allora, Luigi, sì, il tuo voto. Ma guarda, devo essere sincero, a sto punto spezzo una lancia a favore di Stefano, perché mi ha chiamato, io gli ho fatto un sacco di ripetizioni. Sia durante le vacanze. È malgrado questo, insomma. Allora ti abbiamo detto 4 pure a te. No, è più pregato premiare. Io so quali sono le reali capacità. Quindi, siccome non sono emerse le sue reali capacità durante questa lettura, diamogli la sufficienza. Almeno ci mettiamo l'emozione. Dici, sì. L'emozione del pubblico. Insomma. Sta peggiorando sempre di più la cosa. Comunque, cioè, ho iniziato che prendevo degli 8, adesso sono 4, 6. Seppe? Come si fa a scuola? 6 meno meno, hai presente? No, 5 e mezzo. No, più 5 no, più 6. Perché ti deve motivare comunque. Bravo. Ma più verso 5 più verso 6. Su 6, più su 6. Ah, dai. Beh, dai. Allora recupero. Alex, qual è il tuo voto? Ma non mi posso permettere di dare voti, assolutamente. No, il voto è obbligatorio. Sei un ignavo. Vabbè, allora, se proprio devo essere sincero, in altre puntate che io vivevo solo da ascoltatore l'ho sentito fare meglio. Però... ecco. Rientro dalle vacanze, ci può stare. Lo so, dai, tutti quei giorni a pascolare le pecore. Quella serie di problemi lì. È meglio pascolarle. Una serie di problemi di noi, quelli tipici dei sardi, no? Sapete. Quindi. Okay, grazie per i voti di merda. Ah no, Marco. Io come Stasoli do un 6 meno meno, perché l'ho visto molto sufficiente nella lettura. L'ha presa così, capito? Come se ormai fosse una cosa che cioè, alla fine poi sono migliorato. Potevate anche mettere davvero. Non ho parole. È vero, infatti, siete delle serpi. No, è vero, cambio il mio 4, in effetti è un po' eccessivo. In un 5. In un 5 più più. Va bene, okay. Immagina che ti stia sputando in faccia, quindi. Ma anzi, Marco, sputagli in faccia da parte mia. Cioè, è secco, lui non c'ha, credo, non vero, produce saliva. No, esatto, non ha più liquidi quel povero uomo. Io ho finito tempo fa. Esatto. E quelli che c'ha se li è bevuti, tra l'altro. Sì, esatto. Che schifo. Va bene, dai, entriamo nel tema della trasmissione, che Stefano, insomma, stavolta un po'. Abbastanza da dietrologia videoludica, quindi. È abbastanza particolare, devo dire, anche perché è un tema che personalmente giudico poco utilizzato in generale, perché in questo caso quindi si parla dell'accessibilità da parte di tutti, quindi i videogiochi, ai portatori di handicap ad esempio, disabili di vario tipo, per finire a gente come me che ha solo dei lievi ritardi mentali, quindi insomma, in modo da riuscire dai, a gestire non buttarti giù dai. No, beh, dopo quello che mi avete detto adesso comunque cerchiamo di riprendere il filo. No, serio, perché questo è un tema importante. No, è un tema serio importante che può essere visto in tanti modi, in un altro ambito. Quindi io direi di vedere un pochettino, quindi di iniziare col primo punto per quanto riguarda la storia dell'accessibilità e di come i videogiochi sono stati controllati, quindi com'è l'interazione dei videogiochi. Possiamo dire che in linea di massima, sino all'arrivo del Wii, praticamente, il sistema era quello standard. nelle console casalinghe e in parte anche nei computer tramite pad, oppure tramite la solita tastiera, joystick e bottoni delle sale giochi. Tutto sommato altri modi, altri metodi erano, per la mia esperienza ad esempio, solo quelli di giochi, come potevano essere quelli di macchine o quelli con le moto, quelli con gli aerei, gli elicotteri. Quindi usavi semplicemente un controller diverso, ma cambiava la forma, la sostanza era sempre la stessa. E non c'è stato forse una particolare evoluzione dal punto di vista dei controller, se non nell'ultimo periodo, possiamo dire. Non lo so. Chi vuole, se qualcuno di voi ha altri appunti, punti. Inizio io, poi dopo il giro da Giuseppe, Alex, Luigi e poi Marco. Scusate, ho fatto Ma secondo me, allora, se noi facciamo un attimo un'osservazione di quella che è l'evoluzione del controller, perché ovviamente quando parliamo di accessibilità ai videogiochi, che non sono e non potranno mai essere universali in assoluto, come niente lo è realmente, vediamo insomma che i videogiochi prima c'avevano la rotellina, poi la rotellina col pulsante, poi il joystick, poi il joypad, perché chiaramente evolvendo il videogioco evolvevano anche le meccaniche, servivano strumenti che andassero di pari passo con le meccaniche. Però quello che ho notato io, e qui vediamo poi magari insomma che cosa ne pensate voi, è che durante la storia del videogioco in generale ne sono state tirate fuori varie, insomma, di periferiche, che ne so, la pistola, il volante, roba, cioè, ovviamente alcuni erano specifici per certi tipi di giochi, altri invece magari potevano essere più generali. Però ciò nonostante, tentativi non tentativi, alla fine oggi al 2013 sempre il joypad è lo strumento che ha resistito più di tutti, il che significa che è allo stato attuale lo strumento più universale probabilmente nell'evoluzione del controller di videogioco, insomma. Peppe. Ok, allora io sì, sono d'accordo, senza diciamo volere fare una storia, un excursus dagli anni 70 in poi, anche perché credo che questo sia argomento del podcast fratello maggiore Archeologia Videoludica.net. Esatto, io direi che in realtà c'è stato almeno uno spostamento, se escludiamo, sto parlando ovviamente del joypad, non mi sto riferendo a altri sistemi di movimento proprio quello del Kinect, per darsi un'idea. Per quanto riguarda il joypad, il pad in sé, abbiamo avuto un inizio, se vi ricordate, a partire dagli anni 80 con Nintendo, che praticamente aveva appunto imposto con la nascita del pad al posto del joystick che usavamo, che so, con l'Atari 2006, il pad del NES 8-bit aveva fondamentalmente la mitica croce direzionale e una serie di pulsanti associati. Poi col tempo ovviamente abbiamo innanzitutto assistito anche a proprio sempre restando solo per quanto riguarda il pad, a un moltiplicarsi dei pulsanti, vuoi anche perché certe tipologie di certi generi di giochi richiedevano magari più comandi, per esempio picchiaduro, per dare un'idea. E poi in realtà abbiamo avuto sempre con Nintendo, per la verità, per l'esattezza con il come Virtual si Boy? No, io veramente mi stavo riferendo al Nintendo 64, se vi ricordate, qual è il pad. Abbiamo avuto l'introduzione dell'analogico, anche se l'analogico che era messo in il pad del Nintendo 64, avete presente che era quella specie di al centro praticamente, certo. Esatto, era al centro. Perché era al centro? Perché ancora la croce direzionale aveva una sua importanza, tant'è che infatti tu fino a oggi pure col gamepad del Wii U tu giochi a Mario con la croce direzionale, non giochi a Mario con l'analogico, attenzione. Poi in realtà la croce direzionale successivamente ha perso via via importanza, tant'è che infatti, se vi ricordate, il pad del Sega Saturn, quella specie di enorme padellone che poi fu anche ripreso col Dreamcast. Praticamente abbiamo avuto uno spostamento dove in alto troviamo adesso la levetta analogica e in basso la croce direzionale. Questo ovviamente sta a significare che la croce direzionale ha perso una sua importanza in favore dell'analogica, che poi è stato anche ripreso subito dopo anche da Microsoft e da Sony. Tant'è che infatti, se voi guardate i pad anche fino a questa generazione, Wii U anche compreso, ormai abbiamo sempre in alto l'analogico. Perché anche? Perché secondo me è un modo di vedere anche degli attuali filoni videoludici che tirano per la maggiore, che sono fondamentalmente gli sparatutto, gli FPS, che ovviamente la morte sua sono il controller per definizione per giocare ai FPS sono ovviamente le due levette analogiche, e ovviamente gli sportivi, perché ovviamente per eccezione fatta per quei giochi di sport, diciamo, scemi, dove devi usare fondamentalmente tipo quelli il Wiimote della Wii. E quindi diciamo, siccome questi qua siccome fondamentalmente sono questi i generi che vanno per la maggiore, ormai predominano nei pad da un bel po' punto di generazione a questa parte le levette analogiche. Diciamo, io ho detto questo cambiamento appunto dalla croce direzionale che appunto ha perso importanza alla levetta analogica. Questa insomma è una cosa che mi ha colpito particolarmente. E poi passare magari al periodo ultimo dove sono fissati col controller non controller, come Move, Kinect, eccetera. Sì, vabbè, io come ho detto all'inizio, appunto nella premessa, detto più che altro stavo parlando appunto in particolare focalizzato sul joypad. Ma infatti in realtà poi tu hai focalizzato bene il primo punto, che era quello di fare un attimo una panoramica, no, su quello che poi non soltanto è stato l'excursus, ma sono stati anche poi sistemi che più o meno si sono fortemente consolidati, no? Poi dopo con Stefano infatti andiamo a affrontare i discorsi, no, del Kinect, del Move, roba del genere, perché chiaramente poi sono quelli poi l'elemento insomma magari della discordia insieme ad altri fenomeni. Io invece poi magari ho detto, ecco, sono passato un attimo avanti, invece di fare magari tutto quanto l'excursus che ha fatto bene Peppe, ho detto per me poi in realtà poi questi sono i sistemi che ancora oggi sono effettivi, no? Nel 2013 sempre questi sono, giusto? Alla fine sempre di quelli si tratta, non siamo in andati realtà, diciamo, a questi avanti. Scusate se interrompo si associano in realtà solo degli strumenti, fondamentalmente come sempre dei controller accessori, cioè targati che hanno un target specifico di giochi, che possono essere, che so, i Larky Arcade Stick per i picchiaduro, i volanti come ho detto per i giochi di guida, oppure per esempio quei supporti che a mo' di pistola per gli sparatutto sui binari. Però questi qua sono sempre appunto limitati a certi generi. Però tuttora sopravvivono, tranne appunto il discorso sempre che Kinect ci prova a soppiantare un po' tutti, non riuscendoci. Bene, sentiamo anche gli altri, no? Sì, Luigi. Sì. Tu più o meno, non so se tu hai avuto o hai qualche cosa da dire in più, diciamo, sui controller, quali sono state le tue esperienze magari con qualche sistema particolare, ecco, anche. Sì, ma paradossalmente penso che le prime console casalinghe fossero più accessibili rispetto a quelle di oggi, perché la semplicità dei comandi, tipo tenere un pad anche fra le gambe e soltanto con una mano girare una rotella per spostare le racchettine di Pong, è molto più accessibile rispetto ad avere un joypad con due mani e doverlo giocare, dover mappare sia mentalmente che fisicamente tutti quanti i comandi. Quindi penso che la storia dell'accessibilità, per tenermi alla scaletta di questa puntata, ha subito sicuramente dei picchi, insomma, verso il basso, cioè si è sempre diventato meno accessibile per l'utente medio, meno scafato, o quello più smaliziato il gioco, l'approccio al gioco stesso. Scusami se ti interrompo, Luigi, che poi effettivamente è quello che mi hai diciamo dato in là. Effettivamente l'accessibilità, quello che secondo me almeno conta di più, è fondamentalmente questa mappatura veloce dei pensieri del giocatore in azioni, fondamentalmente. Se la complessità, come hai detto tu, con un sacco di pulsanti fa sì che il giocatore deve cominciare pure a riflettere su come fare una cosa, mentre ovviamente l'azione nel gioco va avanti, ne viene anche meno dell'immersività del gioco, dell'esperienza di giudica, fondamentalmente. Certo, il controller è il mezzo con il quale veramente noi entriamo all'interno del mondo stesso. Esatto. Se noi siamo handicappati in senso lato in questo, da questo punto di vista, è chiaro che nemmeno il gioco ci prende e quindi il livello di immersività si abbassa. Poi sto pensando, tra l'altro, io intendo ovviamente accessibilità come proprio capacità, quindi ergonomia, quindi con contenuto user friendly, non accessibilità del fatto che ce lo possiamo permettere o meno di acquistare o di avere un determinato tipo di controller. In questo caso sto parlando. E sto pensando che proprio per l'accenno al tuo discorso, la faccio veramente brevissima. È chiaro che poi si sta tendendo verso dei controller che tendono a eliminare l'interfaccia manuale, perché ovviamente si pensa che più si possa essere facili i movimenti a livello anche gestuale all'interno di uno spazio di gioco, e più ovviamente la gente potrebbe essere invogliata a dire: ah, non ho un controller, famoso Kinect per intenderci, quindi è accessibile a tutti, non devo imparare pulsanti, non devo fare nulla. Quindi questo è il pensiero su cui si sta portando adesso l'industria. Si sta tornando agli inizi, quindi. Si sta andando anche oltre, perché eliminando proprio l'interfaccia del controller. Quindi, comunque, quindi non solo un controller semplificato, ma un non controller. Un non controller, se tu diventi il controller, il famoso mantra di Kinect, di Microsoft. Comunque, quello mi sembra lo approfondiremo durante la puntata, questo aspetto. Sì, sì, anche perché cioè, nel senso, è controversa la cosa. Sì. Alex e poi Marco, direi, se non sì, non mi sto dimenticando nessuno, credo. Vabbè, Simone, ovviamente. No, intanto mi infilo le dita nel naso. Va bene, allora Alex. Allora, vorrei fare una digressione di un paio di minuti che ha a che vedere prima col gioco e dopo col sistema di controllo. Allora, ogni videogioco, nel bene o nel male, è un modello. Fondamentalmente un modello più o meno accurato di qualcosa, tralasciando alcuni giochi che sono prettamente astratti, partendo, che ne so, dal primo videogioco più o meno videogioco, quale potrebbe essere Pong era fondamentalmente un simulatore di ping pong. È un modello molto semplice, molto semplificato, però è un modello. Quando andai al corso di teoria dei sistemi all'università, il professore disse: ogni cosa che noi studiamo qua è un modello, cioè noi cerchiamo di astrarre la realtà, di eliminare strati di complessità in modo da poterla studiare, da poterla comprendere, da poterla prevedere. Se aggiungiamo livelli di complessità sempre crescenti, il modello crescerà in dettaglio, ma arriva un certo punto in cui, se tu aumenti questo dettaglio all'infinito, il modello non è più un modello ma è la realtà vera e propria. Un po' come se potessimo riprodurre un universo all'interno di un simulatore. Posto questo, la cosa che io vedo è che i modelli sono diventati sempre più complessi, e per cui la realtà necessitava anche di un metodo di approccio più complesso. Parallelamente, la complessità, dal punto di vista del marketing, era arrivata a un livello tale per cui l'hardcore gamer era ben inserito in questo mondo, in cui poteva fondamentalmente utilizzare 48 dita con un controller con 56 pulsanti e trovarsi relativamente bene e relativamente immerso nel gioco senza dover pensare. Secondo me, io di hardcore gamer, io non sono un hardcore gamer, però di hardcore gamer ne conosco tanti, e so che appunto gli dai in mano un pad e sono quasi più veloci che nella realtà. Questo però ha fatto sì che appunto gli hardcore gamer, cioè quelli che ci giocavano da sempre, che avevano vissuto diverse generazioni di controller, avessero questo feeling con il gioco, col modello. Le persone normali neanche per un cazzo, nel senso, erano rimasti magari al momento in cui c'era una levetta e due pulsantini, ed era già anche abbastanza troppo. chi si è occupato di marketing ha detto: dobbiamo andare a beccare questi stronzi, perché questi stronzi sono tanti, magari hanno meno soldi da investire nei videogiochi, ma sono fottutamente tanti, un po' come dire le tasse le devono pagare i poveri perché sono molto di più dei ricchi, per cui tendenzialmente andiamo a beccarci questo mercato. Ci hanno provato in vari modi, chi bene chi male. Quelli che ci sono riusciti meglio negli ultimi anni, lo sapete anche voi, sono quelli di Nintendo. Esatto. Che hanno praticamente preso dei modelli molto semplici della realtà, ma accessibili in maniera più diretta, diciamo, nel senso che fondamentalmente vedevi sullo schermo dei deficienti che tagliavano che affettavano una melanzana, e tu c'avevi in mano un cazzillo che facevi su e giù un modello masturbazione maschile e diventava la cosa. Cioè, diciamo che si è fatto un passo in avanti verso l'accessibilità, per cui chi non era educato al videogaming molto nudo e crudo riusciva ad entrare. Ovviamente se tu hai problemi di mobilità erano anche un pochettino affari tuoi. Questo si è arrivato al punto in cui i modelli sono molto complessi e molto ricchi, ci sono interfacce umane che potrebbero essere le batterie, i bassi, le chitarre e i microfoni, pensando ai giochi di canto, oppure pedane per ballare, e infine appunto il tuo corpo come il Kinect, per poter arrivare a giocare con modelli sempre più realistici della realtà. Io personalmente sono un po' perplesso, nel senso, soprattutto per quanto concerne il Kinect, che io ho provato sin dagli albori a vari livelli, dicendo: io probabilmente sono il target di questo prodotto, perché io non sono un grande giocatore, però magari con questa roba qua mi diverto. In realtà mi sentivo ancora più handicappato che nella vita reale. Io credo che a tendere si voglia arrivare a qualcosa di molto più immersivo, molto più potente e performante. La cosa che mi viene da chiedere è se devo arrivare a giocare a un gioco di calcio in cui devo stare 90 minuti a tirare un calcio e un pallone virtuale, mi viene da dire: ma perché non prendo e non vado con gli amici a giocare a calcetto? Probabilmente esatto, perché il punto di forza del videogioco, ed è un punto di forza di marketing, è magari così Alex Raccuglia, che è una sega mortale a calcetto, non si tira dietro i fischi, riesce a magari gioca di merda a casa, ma almeno gioca di merda a casa e nessuno si incazza perché la sua squadra ha perso. Soprattutto non lo prendono a legnate dopo che ha perso. Esatto. Insomma, poi magari dopo un po' a tendere, che ne so, i 60 euro del gioco costano di meno del noleggio del campo di calcetto. La cosa più brutta è se dopo la partita, durante negli spogliatoi, durante la doccia, gli fanno cascare pure la saponetta per terra. È brutto. Ma quella vera è una cosa positiva, non lo so, dipende, Alex. Non so quali sono i tuoi. Non è che sia molto interessato alla cosa, ma i tuoi gusti videoludici. Rispetto alle persone che fanno cadere la saponetta. Ma aspetta, anche per la saponetta, no, vabbè, cioè. Il problema è che magari non è che la fanno cadere, gliela fanno cadere e dicono: adesso la raccogli perché sei stata una pippa, ci hai fatto perdere. Non raccoglila, esatto. Raccuglila, le dicono. Esatto. Raccuglila. Ma poi tra l'altro conta che doteranno di tute praticamente molto aderenti, che avranno un biofeedback molto marcato, in cui anche se virtualmente sentirai anche uno sputo che ti tireranno dagli spalti. Non è che te la scampi, quindi. Ma anche quello del compagno, semplicemente il compagno di squadra, insomma. Esatto, pure quando uno entra, diciamo, col piede a martello e ti fotte una caviglia, sentirai tutto praticamente. Te la fotte davvero, ti spezza proprio la caviglia. D'altronde, esatto. Se si va verso la non interfaccia, quindi la virtualizzazione totale, per l'immersione totale, è giusto che mica puoi prendere solo i benefici. Secondo me meglio affittare dei cinesi che ti vengono a menare a casa. Esatto. Quando fai Mortal Kombat ti menano e via. Cioè, ma quello però diventa un gioco di menare, non è un gioco più di menare di che però ha la sua piattaforma. No, ma lo faccio io gratis senza i cinesi. Cioè, ma non pensate, scusate, voi che siete appunto padri fondatori di con tanta sapienza, che questo non sia più arriva a essere non essere più videogioco. È proprio quello che volevo inserirmi io. Cioè, perché videogioco per sua etimologia è giocare attraverso il video, attraverso lo schermo. Poi è diventato video e audiogioco, ne abbiamo parlato. Eccetera, eccetera, però fondamentalmente il mezzo di interazione principale al 99% è quello del video. Se la cosa diventa tattile, non è che diventa un altro tipo di un experience game, una cosa così, cioè che non è travale che il videogioco. A parte che già, secondo me, ne abbiamo parlato anche su un'altra situazione, in altre puntate, il videogioco, per come lo concepisce l'hardcore gamer, è già in, come posso dire, in separazione, in evoluzione, no? Nel senso che comunque c'è una parte di videogioco che diventerà fenomeno di intrattenimento di massa, e quindi una cosa diversa, magari anche come storie interattive o giochi magari di gruppo, quello che possono essere, insomma, le varie formule, e dall'altra parte sicuramente ma magari un certo tipo di videogioco con concezione classica che magari si radicalizzerà molto più su se stesso. Però secondo me il videogioco innanzitutto è un'esperienza personale, anche immersiva. Già il fatto che io devo stare davanti a un dispositivo che è condiviso con altre persone, ma non perché non voglio giocare insieme agli altri, è che comunque secondo me quel dispositivo, se deve dare la stessa esperienza a più persone, e allo stesso tempo perde l'energia per darla. Ma io secondo me non te va che un napoletano te bestemmia nelle cuffie. Quello è l'altro discorso. Quello è il multiplayer, ne parleremo nel prossimo episodio. Prossimo episodio. Però attenzione, diverso, prossimo episodio. Cioè, nel senso che se un videogioco è ben progettato per farmi vivere a me un'esperienza immersiva, non può avere la stessa energia, la stessa forza nel modo in cui mi farà vivere l'esperienza, se questa esperienza è progettata per essere condivisa con altri nello stesso luogo. Io dico, cioè tipo, che ne so, i giochi quelli là, magari di movimento o zompettosi o canterini o cazzi e mazzi, insomma, cioè, questa è un po' la mia concezione. Però mo, al di là di questo, senza poi magari poi prendere veramente discorsi che poi dopo si estenderebbero in eccesso, poi faccio parlare Saso perché so che voleva dire qualcosa. Il problema dell'accessibilità non è soltanto cioè ci sono anche il termine di per sé è un po' ambiguo, nel senso è un po' controverso, perché accessibilità significa quando una cosa diventa maggiormente di diffusione, di accesso per un numero maggiore di gente. In realtà poi accessibilità spesso e volentieri invece va anche a indicare quando quella specifica cosa è stata progettata per essere utilizzata anche da persone che hanno dei problemi, no? Esatto. Perché per esempio Luigi prima diceva del Kinect, no? Della non interfaccia, quindi magari delle gesture e tutto quanto. Però io magari ci sta la persona che ha problemi di vista e che gioca magari a 30 cm dallo schermo, per giocare con il Kinect deve stare magari a 60 cm e già non ci riesce più. O persone che hanno 60 cm è troppo poco, almeno 1,8 m. Vabbè, hai capito quello che voglio dire, cioè nel senso devi comunque avere, cioè per poter giocare con queste nuove concezioni, che per me sono di per sé di fatto molto meno accessibili di quelli che sono i controller standard, devi stare in determinate condizioni che non sono condizioni che rendono universale il tipo di controller. Oppure deve essere un nano. Oppure deve essere vicino, sei tranquillo. Romir, ricordiamolo, no, che ci accompagnerà per sempre. Salutiamo. Però io vorrei che dicessi anche qualcosa di serio ogni tanto. No, ma io direi che dovevi dire qualcosa tu, tutte cose Marco, sono già state dette, insomma, che devo dire di serio? Che non lo so, la tua esperienza allora. Ma io innanzitutto mouse e tastiera forever, cioè, okay. Purtroppo ecco, tra l'altro sì, che l'abbiamo un po' esclusa, subito buttati sul joypad, ma per me mouse e tastiera forever, cioè non c'è paragone. Ma diciamo che adesso ci stanno diversi dispositivi che sono, secondo me vanno a essere sempre più dedicati, quindi quello che, come diceva Alex, la chitarra, la batteria, la pistola o via dicendo. E poi una bistecca e un calorifero, una bistecca e sì, un calorifero per i prossimi videogiochi di cibo, di cucinare, insomma. Però per dire, insomma, si è partito veramente da rotella, poi sono diventati sempre più complicati i giochi, quindi hanno dovuto aumentare il numero di tasti fino a un certo punto, perché poi ovviamente basta vedere i pad che girano in circolazione, che stanno in circolazione adesso, più o meno il numero di tasti è quello all'incirca, quindi probabilmente, anzi sicuramente, c'è anche uno studio su quanti tasti e quante levette deve avere un joypad. E poi adesso ci sono tutti quanti dei hardware dedicati, come i vari Kinect, i vari Wiimote, i vari cazzo in petto, tralala, questa è una citazione che capirete fra qualche tempo, che praticamente andranno ad accompagnare, a mettersi vicino a quelli che sono i pad classici, al mouse e alla tastiera. poi non so se ci saranno le tute da mettere questo, francamente non so se anche se è auspicabile, insomma, cioè io quando voglio giocare non mi voglio vestire, insomma. E poi tra l'altro devi fare pure la preparazione, devi fare pure la preparazione, certo, e poi dopo se ingrassi so cazzi, perché devi cambiarti tutto. Ascolta, e quindi bene, passando a Peppe invece, che fremevi, cosa... Vabbè sì, innanzitutto anche riallacciandomi a quello che aveva detto Simone, paradossalmente il pad non è perché sono in difesa del joypad, ma comunque paradossalmente il pad faceva una specie di livellamento sociale dei giocatori, ossia cioè, tutti comunque dovevano stare più o meno stavano alla stessa più o meno distanza dallo schermo, con le mani negli stessi tasti, e fondamentalmente l'unica cosa che contava erano più o meno i riflessi, diciamola così. Assolutamente d'accordo mentre, con te. Mentre invece con tutte queste periferiche, per esempio, non so perché però mi viene sempre in mente appunto il Wiimote o al limite anche Kinect, siamo costretti fondamentalmente, cioè conta ora adesso anche il fattore fisico, che magari la coordinazione. Esatto, la coordinazione, ma anche la forza fisica. Esatto. La forza fisica, beh, arriva. No, quindi, perché dopo un po' ti rompi i coglioni a fare così avanti e indietro. Forza con fisica, braccio, è cioè. Pazienza, cioè, che altro. No, ma ecco, no, invece quello che dice Peppe, io sono assolutamente esatto. Al 100%. Quindi paradossalmente, in realtà, ora c'è stato, diciamo, uno sbilanciamento. Ora conta anche essere fisicamente prestanti per avere più chance, magari in una partita di tennis, per darti nel ovviamente virtuale con le periferiche, ma magari. Poi che so, prima quando giocavamo, anche se io mi facevo 2 ore di fila con a Call of Duty Black Ops 2, no? Un sparatutto. Vabbè, poteva anche farmi un pochettino male i pollici, però in realtà comunque più di tanto potevo lo stesso andare avanti. Invece con appunto questi giochi che fondamentalmente richiedono il movimento di quasi tutto il corpo, può anche venire meno appunto la prestazione, che appunto decade gradualmente col passare delle ore. Potrebbe essere un modo per limitare l'uso, magari. Beh, allora in realtà, cioè, scusa, è controproducente, perché il loro scopo è fondamentalmente cercare di farti giocare di più, esatto. Sì, di no, più. Nel senso continuativo, insomma, che poi magari, che ne so, magari più di 4 ore. Ah, dici così, schermo, te stanchi così, te non stanchi. Stai troppo davanti allo schermo e non ti ammali. Lo facciamo per il tuo bene. Ma secondo me quello che dice Peppe invece è sensato, perché in realtà il joypad, tra l'altro, ha resistito per molto tempo e continua a resistere, tra l'altro, perché comunque è lo strumento di default delle console. È perché tu lo attacchi o non lo attacchi, se ce l'hai wireless, e ti metti nella posizione o nel modo o alla distanza che ti pare a te, cioè, esatto. Basta, cioè, non sei vincolato da niente e da nessuno. Poi è vero che dà la nostra immagine, soprattutto la mia, del videogiocatore in panciolle sulla poltrona, però è vero pure che quello è il videogioco, fino a prova contraria. Poi tutto il resto sono nuove esperienze, per carità, non nessuno ne discute, però insomma, cazzo, se mi devo muovere esco. Infatti è quello che ha detto Alex prima, cioè nel senso, se la cosa deve diventare poi così realistica e così immersiva anche dal punto di vista del movimento, veramente me la gioca una partita a calcetto con gli amici, che tra l'altro sarà anche meglio, no? Pure aria. Che poi, scusami Simone, tanto per dire l'ultimo puntino, paradossalmente tu dici vabbè, c'è più immersività col fatto che io sto tenendo in mano un aggeggio che mi simuli la racchetta, no? Però poi tanto io sto giocando per esempio a un gioco di tennis dove sto facendo una partita di Wimbledon, che comunque è una cosa che io non arriverò mai a fare lo stesso nella vita, quindi cioè, da un lato si cerca l'immersività appunto per dire che figo, però poi tanto dall'altro è sempre un gioco, cioè c'è la connotazione del fatto che mi sta permettendo di fare qualcosa che comunque nella vita reale io non arriverò probabilmente mai a fare, tipo appunto giocare una semifinale importante professionistica, sì, da qualche parte. Si può fare anche col pad, però alla fine. Esatto, è proprio questo. Però col pad ci dà una connotazione più ludica. cioè nel senso che col pad in realtà stai giocando, stai videogiocando, esatto, cioè non stai facendo quello sforzo che tanto perché lo devo fare, tanto non ci arriverò mai a veramente, cioè che mi stai facendo provare un'esperienza che non fa parte della mia vita, fammela provare nel senso nel modo in cui me la voglio vivere io, cioè nel senso, da videogioco che poi tra l'altro facciamo una piccola digressione qui a turno, cioè nel senso per me l'immersività è Doom tastiera e mouse, perché comunque è, ma in realtà anche Doom io e lo schermo e il joypad, cioè o no? E certo. Sì, vabbè. Tastiera, mouse e pannolone, tutto quanto insieme. Poi oltretutto ormai il joypad comunque tu hai detto nelle console, ma Simone, ma in realtà comunque è profondamente anche entrato anche nella vita dei cosiddetti PC gamer, che fondamentalmente, perché ormai qualunque gioco più o meno è automaticamente configurato per essere usato pure con un pad. Sì, ma esatto. Ci gioco soltanto giochi di calcio e basta, cioè io non lo uso per... Vabbè, però lo usi. Lo uso, però proprio certo, giocare a FIFA col mouse. Picchetto perché non si può, non ci si gioca che non si può giocare col mouse e tastiera, ma non per l'altro. Luigi. Comunque, sì. No. Sì, non penso che una realtà mappata uno a uno dallo schermo al controller escluda il buon vecchio joypad. Cioè nel senso sto sentendo fare discorsi ovviamente molto integralisti, ma presumo insomma che non verrà abbandonato i nostri vecchi carry controller, quindi uno può scegliere, speriamo, sì può scegliere come cioè, giocare, magari in futuro cioè, ci inventeranno qualche cosa di molto simile a un joypad, però magari cioè, che avrà le stesse funzioni, gli stessi tasti tra virgolette, ma sarà magari, che ne so, virtuale, per dire, però alla fine tipo in realtà è aumentata, ma sto sparando non lo una so cavolata, però cioè non lo so, perché la cosa conta che bisogna sempre garantire comunque un'accessibilità di base a tutti, quindi come è successo adesso, vedo come orientamento il Kinect, non è uscito un gioco diciamo che poi, per quanto sia stato sbandierato questo Kinect, parlo di Mass Effect, parlo di altre esperienze che dicevano funziona meglio col Kinect. Luigi, bravissimo. Alla fine invece poi hai citato Mass Effect, hai fatto bene perché il nostro gettone ce lo dobbiamo guadagnare. Sì, bravissimo. Guarda, io lo stavo aspettando perché stavo contando i minuti, se l'avessi fatto qua. Tu l'avrei fatto io alla fine del tuo stacco. Oggi abbiamo portato a casa il nostro gettoncino. Sì, comunque, questo punto di vista, quindi niente, dicevo che uno è questo, quindi secondo me, quindi state tranquilli perché non è che eliminano i buoni vecchi joypad o il mouse e tastiere, quelle continueranno a persistere come base, questo è il mio sospetto. Poi l'accessibilità, nel senso che renderanno appetibili anche alle famiglie che non vogliono muoversi o altro il possedere questo tipo di controller, perché faranno ovviamente una promozione ad hoc delle nuove interfacce, tutto quanto eccetera. Sono curioso infatti di vedere la nuova Xbox che cosa presenterà a livello insomma di immersione da salotto virtuale, perché lì vedremo anche come giocheranno la partita casual che hanno spinto in questi ultimi due anni da quando c'è il Kinect in maniera abbastanza sfrontata da parte di Microsoft, e quindi insomma ce n'è per tutti, ce ne sarà per tutti secondo me. Ok, Alex? Io credo che l'utilizzo di interfacce tra virgolette semplificate, cioè non immersive realistiche, esisterà sempre, cioè perché anche solo nei device nuovi, fondamentalmente i device touch, quelli che uno fondamentalmente si porta in giro, c'è stato un grande downsize della complessità dell'interfaccia di fruizione, dove per interfaccia intendo dire proprio il mezzo fisico con cui si interagisce, per cui le cose evolveranno in un certo modo e rimarranno sempre le stesse in un altro, per un altro. L'importante è che ci siano sempre dei soldi attaccati, cioè se domani il 99,99999% della gente vuole giochi dove muove il bacino e soltanto l'ultimo stronzo rimasto vuole il joypad, l'ultimo stronzo rimasto non avrà più il joypad, però non credo che sarà così, cioè soldi ce n'è ancora in abbondanza. Va bene, Giuseppe, sì, volevi fare sì, un mi riallaccio anche al discorso di Alex, che effettivamente appunto la cosa che non so se avete notato pure negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo, ne aveva pure diciamo citato anche Luigi col discorso di quell'altro gioco di BioWare è il fatto che appunto per ormai, siccome sono uscite queste periferiche, devono, come ha detto Alex, monetizzare, perché devono andare a racimolare da un certo bacino d'utenza che prima non era invogliato a giocare, no? E quindi la cosa brutta è che però dal punto di vista del game design fondamentalmente iniziano a uscire giochi che o hanno componenti di appunto che come è stato Mass Effect o anche ora che so Dead Space 3, che fondamentalmente ci tirano dentro l'utilizzo di apparecchiature quando in realtà non dovrebbero essere comunque contemplate. Sì, lo so, è fondamentalmente queste cose sono tipo i comandi vocali sono attraverso il Kinect sono un extra, non sei costretto a sfruttarli per giocare, però fondamentalmente la cosa brutta è che ci devono comunque tirare fuori e devono aggiungere alcune cose, alcune componenti, alcuni elementi di gameplay che fondamentalmente non avrebbero ragione di esserci a priori. Poi l'altra cosa brutta è che appunto siccome appunto devono comunque continuare a supportare queste periferiche, si mettono ovviamente a uscire con dei giochi appositamente dedicati, che purtroppo finora, come abbiamo visto, risultano fallimentari e fondamentalmente generano un sacco di schifezze, magari anche titoli con idee interessanti che però vengono completamente affossati dai controlli. Per esempio, per citarne uno, non so se qualcuno di voi l'ha giocato, il gioco è praticamente ingiocabile e purtroppo diciamo nei suoi precedenti capitoli invece era una vera perla, è Steel Battalion EV Armor per 360, non so se l'avete presente. Sì, il capitolo precedente per la prima Xbox, mi pare, veniva fornito proprio con una specie di enorme controller con due cloche che proprio simulava l'interno del Mac. Ora ovviamente con quest'ultima iterazione hanno realizzato praticamente non è in bundle con niente, perché fondamentalmente si presuppone che tu abbia anche il Kinect e il gioco è praticamente ingiocabile. Ma infatti è un problema, perché in realtà, come dice Luigi, è vero, il joypad non te lo leveranno, però quanto poi i giochi verranno condizionati dal fatto che bisognerà utilizzare anche queste altre periferiche, cioè questa è pure un'altra bella domanda. Però andiamo avanti. Scusa, dai. L'unica cosa, aggiungo 20 secondi. Secondo me, fino adesso non c'è stata quella massa critica. C'è stata una massa critica di casual gamer che ha detto: che figata, giochiamo col corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me. Penso che sia su Kinect, come prima con Wii, la quantità di giochi acquistati poi non facesse pendere l'ago della bilancia. Nel senso, io, da quanto ho capito, Wii se lo compravano le persone, però non compravano più altri giochi. Nel senso, giocavano Wii Sport per tutta la vita. Non so il Kinect com'è, però ripeto, io non sento questa grande penetrazione di gente che ci gioca continuamente. Sì. No, è però, vero, però. Magari sono io che la vedo da fuori. Mentre l'hardcore gamer spende i suoi 1000 euro all'anno in videogiochi, il casual gamer non li spende, se ne spende 100, sono tanti. Posso dirti, aggiungo una cosa in postilla. Contate che il servizio Kinect, cioè il servizio che offre Kinect, da noi praticamente è sfruttato in maniera minimale per un motivo molto semplice, perché in America, che è la stragrande maggioranza della diffusione della console Microsoft rispetto all'Europa, intendo, quindi parlo di Canada, insomma, a scendere, hanno i servizi TV, hanno i servizi cinema, hanno dei servizi diciamo in cui il Kinect risulta anche un aggeggio da salotto per facilitare, se vogliamo, anche la fruizione di contenuti che a noi mancano. Sì, scusami Luigi, però questo esula dal videogiocare, però. Sì, sto dicendo di Kinect, nel senso Ma hai mai provato a cambiare canale con una Kinect? Ma infatti hai mai provato a cambiare? Alla terza volta riprendi mano il telecomando, ma proprio fisso. Da noi non sono ottimizzati neanche. Cioè, con te, io ti sto parlando del fatto che la penetrazione che c'ha nel mercato il Kinect in America è diversa da quella dell'Europa per questo motivo. Quindi non c'entra più adesso casual o hardcore. Nel senso, dice, ho la Xbox, uso questo come controller, ad esempio, per servizi che io ho, che invece qui noi non abbiamo. Hai mai visto qui che spingono in televisione, comprate il Kinect per usarlo come telecomando? Faccio un esempio. No, invece lì è tantissimo. Anche come immaginati la nonna che cambia canale col Kinect, che già non riesce a mettere sì, i canali sul digitale terrestre. No, però anche per esempio il servizio TV della Nintendo con il gamepad ha avuto già una diffusione, come si chiama, TV, che qui non c'è, non esiste ancora, e questo comunque fa la differenza rispetto alla penetrazione di una console in un mercato rispetto a un'altra, cioè sicuramente. Ma sono abbastanza d'accordo, però mettiamo il mercato americano, cioè i 300 milioni di americani sono una cosa, io non prenderei solo l'Italia come esempio, ma l'intera Europa, il mercato europeo e soprattutto il mercato televisivo europeo è molto differente, e l'Europa secondo me è come mercato nell'insieme è quello americano, per cui ripeto, cioè, va bene in America però non va bene da noi, non lo so, poi magari mi sbaglio e non ho numeri alla mano. Cioè, io dicevo proprio, portiamo fuori adesso l'ottica dal videogioco ai servizi, perché le console stanno diventando ovviamente sempre più anche delle piattaforme di servizi, soprattutto, purtroppo dico io, perché console dovrebbe essere fatta in primis per giocare. E niente, quindi fuori da quest'ottica dico, ha avuto una buona penetrazione il Kinect dal punto di vista dell'aggiunta in maniera protesica, mi viene da dire, del nostro corpo rispetto alla scelta dei contenuti, che qui in Europa non abbiamo tutti questi contenuti. E quindi calcoliamo anche le vendite da questo punto di vista, non soltanto su chi le compra per il gioco in sé, perché secondo me è una fetta, non dico totale, ci mancherebbe, però importante di penetrazione nel mercato di una periferica rispetto a un'altra. Bene, io direi, a proposito, quindi passando dai vari tipi di controller che possiamo avere, qui si parla di una console, se così si può dire, anzi di un sistema creato in questo caso a metà degli anni 90, il Virtuality, e mi rivolgo in particolare a quelli che si occupano di archeologia videoludica, che sappiamo essere nato solo da una costola di Retrocast, dopo tutto, quindi un piccolo dettaglio. Quindi mi rivolgo in particolare a Simone, a Marco. Quando noi abbiamo aperto archeologia videoludica non sapevamo neanche che sì, questo era una mancanza vostra. Ci hai mandato una mail, ciao, io sono di Retrocast. Ma non è vero, ragazzi. so io la vera storia ed è tutto scritto, mica. Comunque, no, mi rivolgo fondamentalmente a voi, quindi in questo caso, e facciamo un breve cenno su cos'era il Virtuality, come si è evoluto tra virgolette, e perché non ha mai preso piede. Io ne ho un vaghissimo ricordo, sinceramente, anzi forse me l'ha ricordato questo episodio, cos'era il Virtuality, perché l'avevo visto ai suoi tempi, forse in qualche servizio in televisione, ma erano, insomma, sembrava qualcosa di estremamente, non lo so, un prototipo avanzato, ma di quelle cose un po' strane, come quelle macchine da corsa che non vedrei mai in giro, che non escono fuori dalla pista e vengono abbandonate poco dopo. Quindi Simone, allora, intanto, prima di tutto ringraziamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo citato all'inizio, ma in realtà ci siamo anche scordati di aggiungere il fatto che facendo parte del gruppo segreto di dietrologia videoludica, il nostro carissimo amico Morgan ha partecipato anche alla costruzione di questa puntata dandoci degli spunti. In realtà, in effetti, questa cosa del Virtual 1000, del Virtuality 1000, l'ha indicata lui, perché io sì, ricordavo vagamente un po' il nome, però sinceramente io della periferica insieme non è che ne sappia molto, insomma. Chi è che qualcuno di voi se lo ricorda? Perché se no bypassiamo un po' questa questione. Allora, in parole povere, la periferica era composta di due tipi. Da due tipi di periferiche. C'erano le cose, quella periferica un po' che poteva ricordare i cabinati, quelli stile Afterburner o cose così, dove si doveva stare in piedi, si utilizzava un elmetto, un elmo con uno schermo LCD da una risoluzione abbastanza bassa per ogni occhio, dotato di microfono, e si utilizzava anche un controller abbastanza strano che veniva quindi utilizzato per tutto praticamente, quindi per ogni tipo di gioco. Ovviamente diciamo tipo... agli amici che ci stanno ascoltando che se andate a leggere il post dell'episodio troverete insomma relativo link e anche immagine, insomma soprattutto un'immagine, perché è importante far capire che insomma Morgan si è posto il problema del perché, no? Il Virtuality 1000, o al di là, adesso magari Stefano continua e magari anche gli altri hanno qualcosa da dire, si è posto il problema del perché non è mai stato finito di sviluppare. In realtà ci vuole anche fondamentalmente perché somigliava tipo alla macchina di distruzione del divoratore di mondi, praticamente. Sì, esatto. Sì, è cosa... No, più no, brutto. Che poi scusate, ma in realtà comunque ai giorni nostri c'è un erede spirituale del Virtuality 1000, cioè più o meno. No, a parte gli scherzi. No. Non so se voi avete sentito parlare della tecnologia Oculus Rift. Quel visore gigante 3D fondamentalmente della Sony. È la parte superiore del Virtuality, poi tu comunque sempre cioè tu quello ti consente di vedere diciamo a 360 gradi come se fossi proprio dentro il gioco, però poi in realtà esattamente come per il Virtuality poi muovi il personaggio attraverso un joypad. No, attraverso il joypad, esatto. Anche la Xbox o altre, per esempio, usi il joypad dedicato. Quindi in realtà diciamo perché non ha preso prima il Virtuality 1000 e non ha preso perché costava un botto, esatto. No, una domanda però adesso, io credo di aver provato una cosa del genere tipo miliardi di anni fa a una fiera. Non mi ricordo se il visore era stereoscopico, mentre l'Oculus Ciccio è stereoscopico. Sì. Questo è stereoscopico oppure no? Sì, è stereoscopico e muovi praticamente in base a come muovi la testa lui sposta la visuale. Perché mi ricordo che di averlo provato, ma non mi ricordo se era stereoscopica la visione. Sì, è stereoscopico anche quello, una versione chiaramente molto acerba di un visore stereo rispetto a quello a come può essere l'Oculus adesso. Era sicuramente una cosa molto innovativa, ma molto... Ricordiamo che erano gli anni d'oro... L'esplosione della realtà virtuale, no? Sì, se non fosse stato stereoscopico, infatti, che senso avrebbe avuto un casco in testa? Cioè. Simone, infatti, fa molto tagliaerbe, non so se sei presente. Sì, no, ma infatti, sì. Allora, chi si ricorda l'epoca, no? Gli anni 90 in particolare, anche le riviste dei Games Machine, ma anche in televisione se ne parlava tanto, no? Della realtà virtuale, dei guanti tattili, di tutto quello che poi in realtà oggi... la cosa paradossale è che noi oggi ci troviamo a parlare di strumenti che erano già stati progettati e già avevano avuto una loro evoluzione. Esatto, ma infatti prendi pure per esempio, scusami se faccio questa piccola digressione molto minima, anche lo stesso Nintendo 3DS fondamentalmente è l'evoluzione del Virtual Boy. Esatto, vabbè, poi ci arriviamo. Sì, perché... infatti scusa se ho fatto questa piccola No, va bene, però dico, cioè nel senso... La domanda che si poneva Morgan e che poi in realtà ci siamo posti tutti, in realtà è il perché, no? Queste tecnologie che, cioè se andiamo a vedere in maniera dietrologica, probabilmente ci potevano anche essere fattori di interessi, di incroci, di decisioni verso una direzione piuttosto che un'altra. Vi ricordate, no? Quello che è successo col Betamax e il VHS, no? Nel mercato dell'home video, no? Cioè nel senso che uno era un sistema migliore dell'altro, però poi il mercato ha deciso di andare verso una direzione, probabilmente per motivi di semplificazione, di tecnologia, come HD, DVD e Blu-ray anche, sì, esatto, sì. Quindi il problema è che secondo me c'è stato un momento in cui alcune tecnologie sono state sviluppate ed erano acerbe probabilmente nell'epoca in cui, in cui erano state sviluppate. In realtà riguardandolo oggi, magari sistemi più semplificati, magari sistemi più snelli anche dal punto di vista dell'occupazione dello spazio, sono paradossalmente ancora oggi acerbi, cioè nel senso perché non sono stati sviluppati? Sono stati sviluppati perché secondo me se lo sarebbero comprato quei pochi folli super ricchi che veramente vivono da soli con se stessi e il loro casco, capito? Perché poi cioè, c'è pure il caschetto della Sony, cioè ce ne stanno tante di varie esperienze. Ognuno può decidere di vivere la propria immersività come vuole, per carità di Dio, no? Però è tutto ciò che crea un muro tra te e la realtà che ti circonda. In realtà rischia di essere meno immersivo di quanto in realtà ti dà la sensazione che possa essere. Non so, sì, poi sì, Simone, è proprio come ti ho detto prima: snatura il videogioco che non diventa, cioè che non è più videogioco, fondamentalmente. Sai cosa? Più che secondo me parlare di videogioco in sé, che quindi va a ridefinire cos'è il videogioco, la realtà virtuale, mm-hmm. è proprio che è la concezione di design che c'era un tempo, in questo mm-hmm. caso il casco virtuale, che non era, quando dice Simone giustamente, acerbo. Non correva parallela con quelle che erano le tecnologie che lasciava presumere invece avere il casco. Dici, cavolo, io voglio avere un casco per l'immersività più totale, ma quello che vado a vedere fondamentalmente non è nulla di diverso rispetto a quello che posso trovare su un altro tipo di gioco, a livello grafico, a livello sonoro e altro. Quindi, come si dice, la fiamma non vale la candela, fondamentalmente. Oggi invece, che ci aspettiamo una immersività maggiore, può essere che invece un casco virtuale, o l'Oculus Rift in questo caso, questi occhiali che sfuggono soltanto, diciamo, da visori, siano invece un valore aggiunto che molti potrebbero invece ritenere preferibile, sia per costi che sono più accessibili, torniamo all'accessibilità, sia perché la fiamma vale la candela, cioè è bello mettersi, vivere in un mondo in cui ho veramente lo sviluppo di questa realtà virtuale in termini reali di impatto uno a uno. Sto pensando che se voi vedete il link che avete postato in scaletta, i movimenti erano molto lenti dell'aggiornamento grafico del 3D, i paesaggi erano scarni, cioè non c'era quel piacere estetico di essere immerso in un altro mondo. C'era magari la concezione, ma la concezione poi l'idea si va a scontrare con quella che è la realtà sensuale fattibile. E quindi secondo me questo è un deterrente molto forte, il fatto di dire sì, indosso questo ambaradan, ma cosa mi dà a livello di senso, di più, di bellezza, visto che non è tutta questa tecnologia, non è che c'è stato un passo avanti a livello tecnologico. E questo mi fa pensare alle teorie che la tecnologia molte volte precorre quelli che sono i tempi, ma pensiamo pure ai libri di fantascienza che poi sono riusciti, diciamo, le tecnologie ad attualizzare con quelle che erano le visioni un tempo che ci sembravano soltanto fantascienza. Quindi secondo me non è il tempo giusto, perché non è supportata una tecnologia giusta la realtà virtuale al tempo, mentre oggi potrebbe essere ridefinita progressivamente in maniera molto più domestica. E quindi magari avere un impatto più sicuramente storico, che lascia il segno in maniera più concreta, ecco, più pragmatica rispetto a prima. Sì, a proposito di questo, tra l'altro ci sono stati degli esperimenti da parte di varie compagnie, quello che ho già citato prima, ad esempio il Virtual Boy della Nintendo, grande fallimento della Nintendo, che in realtà non fa né più né meno quello che in questo caso fa adesso il 3DS, ma a suo tempo era stato un grande flop per tutta una serie di motivi, però aveva insomma cercato di portare avanti, di modificare, di cambiare qualcosa nella... forse anche la Nintendo a suo tempo si era resa conto della stagnazione un po' dei suoi controlli o del suo modo di giocare. E io purtroppo è un sistema che non ho mai avuto l'onore o il disonore di provare, però non è l'unico esempio. Adesso non mi vengono in mente sinceramente altri... Vabbè, scusami, ci sono tante altre cose che ha provato Nintendo a fare, che comunque o lei stessa o altri terzi hanno poi in seguito ripreso, per darti un'idea, sì. Che so, cioè, tanto per darti qualche altra tecnologia fallimentare, non per cosa di Nintendo, c'è stato per esempio il Power Glove, che fondamentalmente il guanto ora si è evoluto per esempio con... esatto, o anche per esempio non solo Nintendo ma anche da Razer, che fa per gli MMORPG quelle specie di super mega mouse o con multitasti, esatto. Oppure per esempio anche Nintendo fu uno dei primi a fare il tappetino, quello che ora è diventato, diciamo, lo standard per i giochi tipo Dance Dance Revolution, esatto. Anche in sala giochi. O ancora per esempio un'altra tecnologia che, vabbè, questa non si è evoluta, però è stata sempre fallimentare di Nintendo, chi di voi si ricorda, sul NES 8 8-bit Rob, che fondamentalmente fu anche supportato solo da due giochi. Sì, quello il sicuramente è come il Wii Motion Plus, che alla fine è colpa anche loro, non solo della gente, ecco. Però per esempio Rob in realtà ha dato via qualcos'altro, non di Nintendo, cioè il fatto che Rob era fondamentalmente, mentre tu giocavi, faceva diciamo delle azioni prendendo delle, mi pare, delle specie di trottole, no? Sì. Dei dischetti, ed era fondamentalmente un giocattolo che attaccavi al alla console, no? Come accessorio. Bene, ora se noti, ora abbiamo nuovamente l'inserimento di giocattoli che parlano direttamente col videogioco, tanto per darti un'idea, gli ultimi Skylanders oppure Disney Universe, che Disney, insomma, quello che è stato annunciato di recente, sempre sulla scia del gioco di Skylanders, dove tu prendi i pupazzetti, li metti su una base e poi entrano i relativi avatar nel gioco. Però anche quello, vedi, anche quello non mi sembra un tipo di controllo, tra virgolette, di controller che ha preso piede, perché come tecnologia, come cosa c'è da un po' di tempo la realtà aumentata, ricordo le carte, forse in uno dei per DS c'era qualcosa di simile, mi pare, ecco. Sì, ma anche per esempio, non so se ti ricordi su cosa c'era, anche sin dalla PS2 la telecamera, l'iToy, esatto. Anche l'iToy ad esempio invece è stato un buon successo della Sony, tutto sommato, per essere... L'unico difetto è che sembrava un insulto, iToy. Vabbè. No, il punto è, cioè, per essere quello io che l'ho capita. Vabbè, poi te la spiego. Vabbè, dai, dopo in facciamo darò io delle ripetizioni allora per una volta. Un dovuto dai. iToy è sardo, quindi. Esatto. Vuol dire aia, mi sono fatto male, Tonino o Tommaso a scelta. Ai toi. Esatto. Oppure mannaggia a te, una cosa simile, no? Vedete voi. White White. Esatto. Però ecco, lei toi nel suo piccolo ha avuto un grande successo, nel suo piccolo ovviamente, non sto dicendo che sia stato il Wiimote della Sony, ma allo stesso tempo io penso a periferiche come, o meglio, il non utilizzo di cose come quello che ho citato prima, quindi Wii Motion Plus o il Six Axis, che non riesco neanche a pronunciare, talmente poco utilizzato che è difficile persino da dire, appunto. E queste, insomma, si possono rivelare come dei fallimenti da un punto di vista del controller o della software house, oppure hanno visto che c'era poco interesse, i produttori hanno detto bah, se facciamo dei giochi per questo, chi se li compra? Io me li sarei comprati volentieri, ad esempio, cioè Red Steel, col Wii Motion Plus è un'esperienza, senza è un'altra cosa, idem per Kinect, insomma, quando è che hanno sperimentato, o meglio, hanno fallito, e quando è che invece sono riusciti? Qui appunto io ho portato alcuni esempi, andando più nel passato, sì, ci sono, mi ricordo tantissime periferiche collaterali per il Nintendo, esatto. Fondamentalmente per Nintendo più che per la Sega. Sì, infatti direi che Nintendo è stata quella. Anzi, la che Nintendo è stata tra quelle che ha più innovato, ha cercato sempre di reinventarsi con le varie iterazioni di generazione di console. Ma non solo, ma comunque. Guarda, posso dire, secondo me, allora, prima anche Luigi ha fatto riferimento a alcune, cioè alle varie invenzioni o alle varie esperimenti, no, che sono stati fatti, alcuni hanno magari precorso i tempi, altri probabilmente erano fallimentari a prescindere. In realtà, secondo me, sono quelle che io considero fallimenti più o meno programmati, no? Nel senso, tutte quelle cose che stanno nei laboratori delle industrie di tecnologia e che comunque loro sviluppano a prescindere, no? Quindi sono cose che ogni tanto buttano sul mercato per vedere non se ha successo o non ha successo, ma dove un certo tipo di indirizzo può essere poi migliorato successivamente, no? Poi c'è anche il discorso del fatto che, ribadisco, c'è poi il discorso dell'accessibilità, no? E quindi sono alcune cose che secondo me comunque rimangono sempre meno universali di quello che è poi il joypad tradizionale. E c'è anche da aggiungere, e qui concludo, riferito sempre a quello che ha detto Luigi prima, il fatto che le console vanno più verso i servizi che verso il gaming puro, ed è assolutamente vero. Però ricordiamoci che di tre produttori di console allo stato attuale, soltanto uno è veramente e originariamente ludico. E una, l'altra, una delle due concorrenti in realtà produce elettrodomestici e l'altra sistemi operativi e servizi, quindi cioè, in realtà è già di per sé, no? Un tentativo per, di andare verso strumenti ibridi. La PlayStation di per sé lo è sempre stato, Nintendo, no? Faceva fa un po' di tutto, cioè, Casa dell'amore, sì, vabbè, però poi è diventata la Nintendo è il videogioco, no? Mentre che PlayStation è sempre stato un sistema ibrido, c'era il CD, poi il DVD, poi il Blu-ray, comunque strumenti sempre che lo accostavano a qualcosa che era oltre, no, la console. Poi chiaramente non è stato così in senso assoluto, però ecco, l'abbiamo detto quando è l'altra volta, no? Cioè la PlayStation 3, chi è che non l'ha comprata comunque per avere anche il Blu-ray, no? Quindi, Io non l'ho comprata comunque. Tu sei povero. Sono povero. No, comunque, questo, parlando appunto del passato, mi sembra che ci fosse anche più interesse da parte delle terze parti a sviluppare periferiche di controllo innovative. Avevano creato addirittura una periferica di controllo per persone tetraplegiche, addirittura per giocare al Nintendo, quindi al Nintendo 8-bit. Invece, passando ad adesso e oggi, quali proposte ci sono? Cioè, nel senso, mi sembra che sia stata da parte delle terze parti una si sono uniformati, ecco. Sono uniformati tra di loro e alla fine producono sempre gli stessi joystick con le stesse cose per migliorare un po' l'esperienza di un certo genere, e di cose nuove se ne vedono relativamente, per quanto siano innovative. In questo caso, appunto, il Kinect, non so, continuavo a chiamarlo, a pensare a Project Natal, che era il nome originale, non so perché. Che era anche più bello. Sì, no, era un nome del cazzo, però non lo so. Mi intrigava di più Project Natal. E poi appunto il Move, che è stato un fallimento becero, proprio una di quelle cose. Giusto anche. Giusto, fallimento giusto, sì. La Sony sicuramente ha provato. Beh, era abbastanza prevedibile, cioè avevano fatto proprio il minimo indispensabile, un po' sì, come sì, dare 6 meno meno. Esatto, a sì, sì. Ha detto lo famo pure noi, ma proprio non me lo prendo troppo i coglioni. Sì. Senza supporto. E Nintendo con Wii Motion Plus. Ma ad oggi, che cosa c'è come a livello di controlli? Come qualcosa che sia davvero innovativa in generale, non si parla solo di console, anche nel PC, che non sia sempre utilizzare queste tre cose, due facciamo, perché il Move lo esclude, la copiata mouse, no, tolto anche la copiata mouse e tasto. Sai che c'è, Stefano? Secondo me come funzionalità, cioè, alla fine andare oltre il mouse e la tastiera al joypad, a meno che non vai proprio su cose specifiche come, che ne so, la chitarrina per Guitar Hero, queste cose qui che sono ornamentali quasi, perché poi alla fine sono ornamentali, possono essere fatte tranquillamente con tastiere e con pad. Alla fine, come funzionalità di innovativo, che ci sta? Ti posso interrompere, ti dico una cosa che a me ha colpito tantissimo, forse non ha colpito tutti e non nessuno ha preso la palla al balzo per creare qualcosa di interessante. Quando ho presentato il primo iPad, ormai sono passati 1000 anni, non lo so, 3-4 anni dal primo iPad, forse 3, hanno fatto vedere un gioco, uno spara-spara. E c'era lo sviluppatore, diceva: abbiamo sviluppato una cosa che aveva molto senso utilizzare come touch. Praticamente era uno spara-spara molto semplice. Allora la grafica dell'iPad non era al livello della PS3. E qui piccola frecciatina. Vabbè, andiamo. Insomma, praticamente andava in giro, davanti a sé si trovava 4 nemici. E lo sviluppatore, cioè, per dimostrare il gioco, ha messo su 4 dita e sui 4 nemici a schermo. E queste 4 dita ognuno avrebbe ha sparato un colpo, cioè contemporaneamente. Così sono buoni tutti. Questa è una cosa innovativa. Questa cosa in particolare è stata la cosa più innovativa che ho visto negli ultimi 10 anni. Poi non l'hanno sfruttata perché, per mille vari motivi, probabilmente perché è difficile, probabilmente perché è scomodo da usare. Però l'idea di poter non avere più un singolo strumento di puntamento. Beh, io ripeto, può essere facile, può essere difficile, però ripeto, sarebbe stata una cosa innovativa. Il fatto di non avere non più un singolo strumento di puntamento, ma N, Beh, insomma, questa potrebbe essere la vera innovazione. Poi magari mi sono sbagliato. Già in questo ambito, un sistema di puntamento plurimo, cioè è limitato a determinati giochi, se non a un gioco o due. Perché no, è limitato a un determinato device. Però sì, il problema è che quello che dice Alex, genio è gioco. Anche. Aspetta, quello che dice Alex è che nell'ambito dei videogiochi su touchscreen, quindi su dispositivi come iPhone o come iPad, uh-huh, dove mettono un'interfaccia, quindi una sorta di pad virtuale a touchscreen ai lati dello schermo, che comunque per me resta poco gestibile, è un abominio. Esatto. Questi hanno provato, se non altro, a dare una risposta diversa, cioè nel senso è inutile che ti metto un pulsante che come ti sposti il dito te lo sei pure perso, tra l'altro, perché non lo senti chiaramente, no? Qual è il rapporto del videogiocatore con il joypad? È quello di non guardarlo, perché ce l'hai in mano, no? Lo tocchi, lo palpi, quindi già sai. No, vabbè, adesso ci sono giochi in cui per esempio la leva analogica virtuale sul touchscreen compare in qualsiasi punto tu metti il dito, però a parte quello. Sì, però è comunque concettualmente, cioè, è una bombina. Sì, ma sì, no, però no, qui non fatto... è la stessa cosa, perché non hai, scusami, il feeling comunque il feeling fisico, cioè devi comunque avere un feedback. Però il fatto di farmi un gioco dove metti, in questo caso, ora prendo uno specifico, quattro sistemi di puntamento per far vedere che poi mette quattro dita là sopra, è più, diciamo, una scusa per far vedere che poi mette quattro dita là sopra e usarle in contemporanea. Ma probabilmente, cioè, in quella utilità. Però è diverso fondamentalmente. Allora, già il fatto che la periferica touch ha nello stesso identico punto sia quello che vedi sia quello che interagisci ti dà già un modo diverso di vedere le cose. Metti caso che stai giocando un'avventura grafica, nel senso, non è che devi cliccare la porta, devi proprio toccare la porta per aprirla con la chiave. Cioè, comunque è un approccio ovviamente virtuale, perché lo schermo è piatto, però effettivamente stai toccando l'area di gioco, mentre prima toccavi da una parte e qualcosa succedeva nell'area di gioco. Questo secondo me è già abbastanza un balzo nella fede. No, se non altro è un'idea. Se non altro è un'idea, che secondo me è un po' quello che vuole presentare Nintendo con Wii U, quando fanno vedere che tu col peddino lanci gli shuriken, sì, no, quella roba lì. Sì. No, beccato al primo colpo. E quelli appaiono nello schermo. Cioè, comunque, ripeto, in qualche modo stai toccando il gioco, cosa che non è mai successa prima nel videogioco. Cioè il fatto che la periferica touch ha contemporaneamente nello stesso spazio fisico l'elemento video e l'elemento di interazione. Beh sì, poi così hai risposto a Stefano, in realtà. Che cosa c'è di nuovo? Il multitouch, okay. Anzi, il c'è multitouch, forse. Anche se quello è resistivo piuttosto. Esatto, che... quello, il gamepad del Wii U non supporta più gesture, esatto. Sono dei pitocchi. Effettivamente potevano sprecare. No, vabbè, loro quella. Allora, sai che a Nintendo loro quella c'hanno delle tecnologie, ce ne andano avanti per 20 anni. Ma comprano su eBay gli schermi touch dell'iPhone 3. Cazzo, gli costava $9 l'uno. Cioè lo schermo. Che se ne fanno dei 1500? Milioni di schermi resistivi che hanno in magazzino. Esatto, è quello il fatto, bravo. Perché quelli sono tutti DS, che erano i DS che dovevano fare extra large, esatto. Che non l'hanno mai fatto. XXL, i DS. Esatto, bravo. Ma poi, scusate, però, un secondo, mm-hmm, perché c'è Luigi che sta zitto da circa 40 minuti, penso che sarà anche annoiato. Sta respirando, mettete uno specchio sotto il naso. Secondo me c'è un multitouch. Niente, vabbè, esprimi qualche considerazione anche tu, insomma, perché sei stato un po' estromesso dalla discussione. No, ma vi sto ascoltando volentieri. Tra l'altro, datemi uno spunto, perché non sapevo cosa dire, esempio, oltre quello che avete detto. No, io riguardo Luigi, nei tuoi confronti ho sempre notato un certo interesse nei confronti del Kinect, come impotenza, però, nel senso, come periferica che potrebbe essere sfruttata a dovere, lo affascina, che invece sì esatto, ti affascina, ma non alla fine non ci fanno niente di utile, di abbastanza interessante da motivare, insomma, l'acquisto di una serie di giochi da parte di un hardcore gamer in generale, sì, anche perché sì, ad oggi mi sa che non ne hanno fatto, giusto? No. Giochi hardcore proprio per Kinect, dopo averli millantati, dopo aver millantato interazioni in realtà, plurime. Quello che volevano spacciare per Joker Core è quello che ho e Steel Battalion. Esatto, che è stato, sì, stato un flop micidiale. Ma non puoi, esatto, non puoi basare una periferica su un gioco. Poi paradossalmente, per esempio, nel caso specifico del Kinect, è una periferica che appunto loro volevano tanto tirarsi l'utenza appunto casual, che ovviamente però lascia preservando anche quella hardcore, ma non c'è stato nessun gioco, per esempio, per darti un'idea, un altro gioco per chi che sfrutta anche il Kinect è Child of Eden, che Luigi conosce pure, e per carità quello già funziona discretamente, però per esempio se tu in quel gioco sei proprio il giocatore quello accanito che vuole raggiungere, vuole fare l'high score massimo, con i controlli attraverso il Kinect non lo puoi fare, sei costretto a usare, che il gioco supporta anche, il pad, sei costretto a ripiegare sul pad, attenzione, quindi è come sempre Microsoft che sbandiera, cioè abbiamo il Kinect, ma guarda che in realtà il Kinect è proprio palesemente solo per... Vabbè, il problema è che loro l'hanno fatto, non è che poi non di non voglio comprare una merda. Certo. Però parlateci con Star Wars. Però purtroppo, purtroppo i risultati sono questi. Ecco, tu Luigi, io ne parlerei, vai Luigi. No, ti aspettavi qualcosa di... Cioè, o meglio, tu cosa sognavi dal Kinect? O se sognavi qualcosa, o cosa vorresti, non lo so. Ma guarda, l'avevo percepita come un'interfaccia di intermezzo, non era qualcosa di definitivo. Per cui ho pensato che quello che ho sognato era molto ridotto da questa mia già preconcezione. Sicuramente quando vado ad acquistare un tipo di tecnologia simile, e i miei acquisti sono corroborati da tutta una serie di teorie, di autosuggestioni legati alla letteratura, legati a quello che ideologicamente anche penso della tecnologia, del virtuale o altro. Quindi quando ho comprato il Kinect non ho comprato soltanto un attrezzo per giocare, ho comprato un occhio che avevo a casa che mi poteva mappare ovunque fossi nella sua linea visiva. Ho comprato, diciamo, un sistema di controllo. Io il Kinect lo uso moltissimo per scorrere i canali su Xbox, quindi lo uso come interfaccia browser dell'Xbox, se vogliamo, più che per giocare in sé, e lo ritengo una interfaccia dove hanno implementato delle funzioni hardcore all'interno di alcuni giochi, ma non che abbiano fatto dei giochi dedicati hardcore in maniera preponderante che potessero invece a essere più appetibile da quel punto di vista anche nel nostro immaginario di sbavanti per la fantascienza. Però quello che penso è che sicuramente ho perso subito le aspettative, cioè c'è stata una disillusione quando ho visto che il vomito casual che continuavano a fomentare per il Kinect non lasciava tregua per quello che era un possibile videogioco che avrebbe fatto veramente, non so, impazzire. Io se devo dirti cosa sognavo una sorta di Metroid per Xbox 360, dove c'era una combinazione fra l'utilizzo del pad e quello del Kinect. Quindi magari avrei potuto usare un'interfaccia che poi hanno usato con il gamepad in Zombie U, in cui dovrevo magari a livello gestuale andare a toccare determinati tipi di combinazioni, quindi in aria fare questi gesti per sbloccare alcune porte o muovere, diciamo, alcuni meccanismi tridimensionali, un po' come fa sto pensando, come si chiama quel film, Johnny Mnemonic. Quindi usare quel tipo di realtà in cui mi sentivo più immerso all'interno di un gioco, ma che fosse prettamente hardcore, non andare a cavallo con Fable oppure questo a livello di controller virtuali. Parliamone del cavallo di Fable che va spazzolato. Io ribadisco, secondo me queste periferiche sono l'anti videogioco, cioè non per cosa, ma in realtà l'unica idea interessante, scusami a questo punto, visto che parliamo un po' di progetti fallimentari del Kinect, che ci poteva essere se davvero fosse stata implementata e non fosse stata una demo fasulla, era Project Milo. fatto che tu potevi scrivere, infatti che è andata a puttane, esatto, il fatto che tu potevi scrivere su un foglio una cosa, gliela facevi scansionare alla telecamera e lui la ricreava, capiva insomma quello che c'era scritto per esempio nel foglio per comunicare col, diciamo, con quel personaggio virtuale. Ma chissà che non vedremo quindi in futuro, no, io adesso tornando a Virtuality magari vedremo una versione avanzata, come è successo col Virtual Boy, come è successo col Power Glove, sì, e così, sì, via. Magari un giorno vedremo una cosa che sia sì come il Kinect, che magari può prendere spunto dal Virtuality, o meglio dalla parte che riguarda la mancanza tra virgolette di controlli che ti garantiscono una maggiore immersione all'interno del videogioco. Magari riusciremo ad arrivare a questo, me lo auguro anche io, perché... Ma sì, anche perché Stefano, scusa, ti interrompo, sì, solo, ma secondo me questi qua, poi tra l'altro, e questa è proprio una mia idea personale, molto dietrologica, queste sono proprio tecnologie di scarto, anche perché se voi andate a cercare un po' su internet di sistemi e interfacce che mischiano la virtualità e la realtà aumentata, ce ne stanno, e anche di gran lunga più evolute, solo che normalmente, cioè, le usano per bombardare in Afghanistan, no, adesso, cioè, però, cioè, nel senso, comunque il discorso, io conoscevo un ragazzo che per un progetto all'università di ingegneria praticamente aveva scritto questo software che se tu mettevi il foglio davanti alla telecamera, facevi la casetta, lui, la casetta diventava tridimensionale, no? Cioè, nel senso, stiamo a parlare dei progetti basici, no? Nel senso, e quindi secondo me queste qua veramente sono un po' tecnologie di scarto. Il progetto di Milo poteva benissimo essere interessante, sicuramente, esatto, verrà riproposto prima o poi in un'altra maniera, in un'altra, perché è veramente una nuova forma di interazione, però a livello generale probabilmente, ma a livello videoludico, cioè probabilmente sì, cioè, se, probabilmente quello poteva anche essere un videogioco che ti faceva vivere un'esperienza alla Heavy Rain, cioè nel senso non drammatica, ma non nel senso drammatico, ma nel senso immersivo, nel senso strettamente narrativo, senza buchi. Però tu interagivi con il bambino, oppure aiutavi il bambino dandogli, che ne so, questi messaggi, queste tracce o roba del genere, quindi interagivi nel gioco. Sai già che cosa gli avrei scritto io? ma non soltanto scritto, io gli avrei proprio disegnato, cioè. Che stai disegnato? A ci pare cazzo. E quello ti guardava, che cazzo è questo? No, ma dico, a proposito di tecnologie vecchie riproposte, tra le tecnologie c'è quella, sicuramente quella che va in questo periodo, che è quella del 3D, del cosiddetto, sì, 3D. Ecco, parliamone di questa. Ecco, sì. Il 3D è iniziato nel cinema negli anni, non so, i primi esperimenti quando siano stati fatti, negli anni 30, negli anni 30. Ha iniziato con le foto, tra l'altro. Ah, addirittura. Sì. Con porno 3D. Assolutamente sì. Poi ricordo qualche esperimento anche negli anni 70, 80, col classico, con i classici occhialini, quelli blu e rossi. Esatto, anche esatto. 50. No, ma in realtà la sperimentazione sulla tridimensionalità nel cinema, nella fotografia, nell'imaging c'è sempre stata, sta cosa, nel senso, dagli anni 20-30 fino ad oggi ne hanno fatte delle sperimentazioni, poi fondamentalmente tutti basati quasi sullo stesso principio, no? Sì. Però chiaramente ce ne sono stati tanti, insomma. Ecco, ma volevo aggiungere solo sta cosa, vai. Ma soprattutto perché, allora, io noto che il 3D che si vede al cinema, io da poco ad esempio sono andato a vedere, a spaccarmi gli occhi e il cervello vedendo l'Hobbit in 3D. Aggiungi un'informazione. No, vabbè, dai, ma che palle. L'Hobbit è 48 fotogrammi al secondo. No, ma no. Quello 2D è 48 o quello 3D? O ma anche quello 3D? No, 2D è solo 24. Ah, ok. Comunque, fatto sta, ho visto quello, ma il 3D che mi aspettavo lì, tranne in due scene, cioè non lì, in generale il 3D che c'è adesso nelle televisioni, nei videogiochi, nel cinema, non è quello che mi aspetto io, cioè... Il 3D che voglio io è il 3D dove la roba esce dallo schermo, non dove la roba ha un senso di profondità. Scusa, tu praticamente sì, pretendi quasi la, la cosa, la, la sala ologrammi. Esatto, la sala ologrammi nel ponte dell'Enterprise. Esatto, nel ponte dell'Enterprise. No, non dico di arrivare a quel livello dell'ologramma, ma quasi. Beh, il problema quasi è che non potrai mai farlo, perché il senso di profondità non è dato soltanto dalla stereoscopia, ma soprattutto dalla, dalla messa a fuoco. Praticamente soprattutto dalla profondità reale, diciamo pure la verità. E fammi finire, porco zio. No, scusa, tu poi finisci perché sei più tecnico di me, però io voglio soltanto di una cosa, perché poi me la dimentico. Allora, il 3D al cinema è una simulazione. Partiamo dal presupposto. Tu stai guardando uno schermo bidimensionale che ti ripropone, tramite ovviamente uno sdoppiamento dell'immagine, sì, poi riproposta per lenti polarizzate, ovviamente una simulazione del 3D. Quindi non è 3D. Prima okay di tutto. Partiamo dal presupposto. E che sia, tra l'altro, il sistema meno accessibile tra tutti i sistemi di cui abbiamo parlato adesso, ovviamente ritornando al videogioco, questo non ci piove, perché basta che tu c'hai una lieve asincronia o una lieve, come posso dire, non allineamento perfetto dell'occhio destro con l'occhio sinistro e già sei un, esci fuori matto, cioè nel senso ci capisci più niente, vomiti, hai problemi di ogni genere. Ti, ma ti non fai soltanto la cacca addosso, sì, ti, esatto, ti rubano l'auto, ti anche, cioè, cosa, cosa. Esatto, e ti bruciano casa, ti danno fuoco casa soprattutto. Ma soprattutto c'è tantissima gente che ha differenza di visus tra un occhio e un altro, no? Cioè magari, cioè, nel senso, a uno gli manca 0,75 a un occhio, gli può mancare 0,50 all'altro, e queste sono comunque differenze che nella visualizzazione, per chi non, ovviamente per la maggior parte delle persone che ovviamente non si pongono il problema perché per loro è la normalità, non se lo pongono il problema, però in realtà io so che c'è stata tantissima gente che viene con la quale sono andato al cinema, roba del genere, che esce dal cinema stordita da un'esperienza come questa, e altri invece gli piace tantissimo perché dice: ah, ma veramente come Alex con Avatar, no? Che l'ha esaltato e lodato in ogni modo. Però ecco, ma adesso, mi hai mai sentito dire Avatar è un capolavoro? No, lo hai esaltato come 3D, dico. Sì, allora, nell'ottica della 3D era un gran 3D, adesso credo che il miglior 3D che c'è in circolazione è quello dello Hobbit. Il problema è che il 3D, come mi hai detto tu, è fondamentalmente un'illusione ottica, che se te la guardi sulla settimana enigmistica per 10 secondi, ah che bello, se te la vedi per 3 ore di seguito cominci a dire adesso ammazzo qualcuno, mi ammazzo da solo. Ripeto, il problema è che il 3D stereoscopico risolve uno dei due aspetti del tridimensionalità, il fatto che ogni occhio vede da un punto di vista diverso, però non mette a punto l'altra cosa, cioè la profondità di campo, nel senso, se tu non hai piani infiniti davanti a te, non hai anche un modo di mettere a fuoco con l'occhio, per cui tendenzialmente vedi le cose che sono a fuoco come te lo impone il film o il videogioco, che ti dà il suo piano di messa a fuoco, il suo piano di proiezione. E a questo punto, cioè, il tuo occhio dice: ma questo è un mondo 3D perché vede due immagini sfalsate, però non riesce a mettere a fuoco quello che vorrebbe mettere a fuoco, per cui lo sforzo dell'occhio è veramente molto molto molto forte, e non si potrà mai andare contro questa cosa se non attraverso il ponte ologramma di Star Trek, che, dato che dobbiamo parlare di Star Trek e di Doctor Who quasi sempre, direi che possiamo parlarne anche adesso, però a perché oggi pure lì abbiamo gettoni noi. Ecco, esatto. Oggi credo che stiamo parlando assolutamente di fantascienza. Ok, quindi non c'è un modo perché le immagini escano dallo schermo, diciamo. No, perché a me sta cosa, se vuoi, c'è una cassetta. Mi piace dovertelo dire. No, perché oggi c'è una videocassetta che se te la guardi ti arriva una telefonata. Dopo 7 giorni ti escono le immagini dallo schermo. No, allora, perché soprattutto una bambina. No, dico, io sono rimasto molto deluso altrimenti, perché sono andato Stefano. Sì. Ci sei rimasto male un po' come quando ti hanno detto che Babbo Natale non esiste? Sì, o quando ho sentito che sei uscito con Tafano ieri sera, quelle cose lì, stile delle serie tese. No, sono rimasto male perché io ho detto: ah, il 3D finalmente adesso con la nuova tecnologia faranno una cosa che la roba mi esce dallo schermo e mi combattono addosso. Aspetta, la roba. La roba. Ma guarda che già adesso è così, allora, la tendenza... vabbè, adesso... No, mi combattono addosso. bisogna disciplinare questi giovani. No, mi combattono addosso era difficile. No, mi combattono addosso perché quello che mi aspettavo combattimenti incredibili a un centimetro di distanza, invece mi vedo i nani che sono lì piantati. Il senso di sempre vedere sborro addosso. No, c'era sborri in scudo di quercia questa volta, stai tranquillo, va tutto bene. Ah, okay. No, e quindi io dal primo 3D sono rimasto deluso, ho detto vabbè, ma questo 3D qua è una cagata, cioè no, ma chi lo vuole? Ma... è una cagata, sì, pazzesca. Cioè, ma, cosa mi avete illuso, capito? Luigi, il 3D è universale o non è universale? In che senso? Cosa si intende per universale? Sempre stiamo parlando di accessibilità, quindi se applichiamo questo discorso anche al videogioco, no? Cioè, nel senso, portare il 3D nel videogioco crea ulteriore limitazione, no? A livello di pubblico, oppure... Ma, un discorso molto relativo, cioè conta che il 3D presume la capacità di poter vedere in 3D e siamo arrivati a un livello tecnologico per il quale un paio di occhialini, anche mio padre che fondamentalmente è miope, presbite e astigmatico e altro, con gli occhialini 3D riesce a vedere perfettamente le singole immagini 3D mettendo gli occhialini sopra i suoi occhiali, quindi da questo punto di vista non è che crea dei problemi rispetto invece a come era proposto prima, tempo addietro, però ti ripeto, è molto relativo parlare di universalità o meno, cioè dipende sempre da come implementi un determinato tipo di caratteristica all'interno di un determinato tipo di esperienza. Sicuramente secondo me non ha quell'appeal pazzesco che ti può portare a vendere 3000 console perché ti rende tridimensionale in maniera perfetta il gioco. Non penso che sia un in più che la gente cerca, perché già i pannelli visivi degli ultimi televisori sono già meravigliosi di per sé, quindi siamo abituati alla definizione, siamo abituati ad avere l'occhio ben appagato. Il 3D può essere un valore aggiunto, ma non che fa questa differenza, chissà poi a che livelli. Quindi non la vedrei come una carta vincente su cui si gioca il futuro dell'intrattenimento, sì, digitale. Sono perfettamente d'accordo per i motivi che ho precedentemente citato. E quindi in questo caso, ad esempio, per quanto riguarda il 3DS, che è stato comunque una console particolare. Sì. Però dovete smetterla di ridere, ragazzi, cioè, non è possibile. Cioè, peggio della scuola. È Marco che fa lo stronzo. Sì, ma scusami, però Stefano, il 3DS ha un 3D di profondità, non è che mi è uscito. Sì, esatto, che ti escono. No. Scusate, adesso, così che me ne curiosità. Ma voi cosa ne pensate del 3DS? A me ha fatto cagare a spruzzo. Mi lascia cagare a spruzzo. Aspettate, mi ha lasciato... Sì. Posso farla? Scusate, no, dato che fermi, cioè, riprendiamo un attimo un secondo di ordine. Cioè, è un secondo tempo. Siete voi quelli indisciplinati. Tanto. No, sì, hai ragione. Cioè, non sempre, sto scherzando, ma è troppo lì. No, però ecco, allora, dato che abbiamo parlato di 3D, Alex ci ha spiegato più o meno, insomma, io ho espresso anche la mia considerazione sul fatto che secondo me comunque, e ho motivato perché comunque il 3D ulteriormente crea problemi di accessibilità, però a questo punto parlavamo del Nintendo 3DS, dato che siamo entrati nell'ambito, sì, del 3D. Allora, prima di tutto io il Nintendo 3DS ammetto di non averlo mai visto, quindi io non so, e vorrei un attimo che qualcuno mi spiegasse anche come funziona tecnicamente il problema, la questione del 3D del Nintendo 3DS, che tra l'altro, a quanto ho capito, è ancora più fastidioso del 3D polarizzato, con le lenti polarizzate, insomma. Allora, se usi praticamente il 3D attivato nel 3DS, innanzitutto devi, cioè, è un 3D appunto di profondità, perché vedi le cose da dentro, cioè come se tipo lo schermo in realtà ci avesse fosse scavato, che non esiste la cosa, e poi comunque devi guardare le cose da una certa angolazione. Al momento in cui ti sposti anche un pochettino, magari perché sei seduto sulla metro e quindi c'è qualche strattone, o sull'autobus eccetera, già lo puoi perdere. Poi le cose si diciamo peggiorano nel caso in cui c'è diciamo la scena è molto concitata. Cioè, per darti un esempio, quando giochi a Zelda, cos'era, Ocarina of Time, il remake che hanno fatto per 3DS, mi pare di sì. Sì, mi pare di sì, che era quello che l'hanno strapubblicizzato. Esatto, e là già il 3D comunque comincia a dare qualche problema, portando addirittura per certi versi anche al cosiddetto motion sickness, quando la scena, diciamo, la ruota in continuazione perché giri magari la telecamera, no? Pronto? Mm-hmm. Mi sì. Senti? Io sì, però sento che qualcuno sta cadendo in continuazione. È Biggio che ha deciso che si suicida. Vabbè. Continua, Alex, ti devo chiedere una cosa. Uh-huh. Una cosa da Alex. Quando mi hai detto che insomma non ha stimolato il tuo parere favorevole il 3DS, ma intendevi il 3D, il 3D in generale oppure la macchina? In genere. Allora, c'era dimostrazione. Sono andato proprio con Simone. Quando sono venuto a Roma, giù l'ultima volta, siamo andati al centro commerciale, siamo andati in GameStop e c'era in dimostrazione. L'ho provata. Allora, tecnicamente il display mi sembra ridicolo. Adesso magari domani Nintendo vuol fare che io faccia un video, sentirà questo podcast e non me lo farà fare più, però hai giocato il cliente. Trovo che il display sia assolutamente ridicolo per gli standard, non del 2012 ma del 2005. Il 3D, giusto che, dato che deve essere 3D, è auto 3D-zante, fondamentalmente si perde della risoluzione. Il problema è che la risoluzione di partenza era talmente bassa che quello che si vede è una cosa blocchettosa, assolutamente non immersiva, un display comunque piccolo. Per cui l'approccio che io ho avuto con la cosa è veramente di una cosa molto molto cheap. Poi magari no, però questo il mio approccio molto economica, cheap. Molto economica. Buttata lì a cazzo, cioè veramente che avevano delle robe avanzate che l'hanno messe lì dentro. Ma guarda che loro sono famosi per la tecnologia avanzata, per cui infatti. No, ma ho capito cosa intendi. Sto pensando tra l'altro che c'è un mio amico che ha comprato l'XL, il 3DS XL, già dice: credimi, è un altro mondo, mi dice. Cioè veramente la stessa console però portata in misura più grande ti dà un appagamento infatti maggiore riguardo proprio innanzitutto alla visione che si ha, a parte adesso la risoluzione che viene adattata tra l'altro allo schermo più grande, non è che si perde. Però vorrei spezzare una lancia a favore del 3DS per un motivo: è l'entrata davvero a piedi uniti di Nintendo nell'online, quindi Wi-Fi, Street Pass, tutte le funzioni che ha, la trovo molto... La trovo ottima come console per il recupero dei vecchi titoli nelle shop. Quindi ti giochi delle perle a poco prezzo di tutta la roba veramente che Nintendo ha fatto dietro e che non trovi invece sul Wii, Nintendo Wii, della Virtual Console e altro, o sul Wii U. Quindi da questo punto di vista è già una macchina di per sé encomiabile da questo punto di vista. E poi ha sviluppato, a parte adesso con l'online, i video e altro, i Nintendo Direct e tutto quello che ci vuoi mettere, ma un componente social non indifferente. Cioè, se veramente io mi piace uscire fuori col 3DS, scattare fotografie, inviarle, ma impiastricciarle sopra, eccetera. È una console che ti fa innamorare della console stessa se la frequenti, ecco. Luigi, però più che altro per rimanere in tema, ma tu il 3D del 3DS quanto lo usi ormai? No, non me ne frega niente, per questo sto dicendo. Uh-huh. Cioè, nel senso del 3D, rispetto al Nintendo DS che avevo prima... Uh-huh. Cioè questa console davvero la trovo più a portata di modernità. Per me invece il 3D è un giocattolo che sta lì messo in più, ma non mi fa la differenza. Anzi, come se non ci fosse, perché non l'attivo quasi mai, anzi diciamo mai. Però volevo spezzare proprio una lancia a favore sul fatto che c'è una serie di funzionalità che per una console sono carine, sono belle, sono social, mi fanno parlare della bellezza del videogioco, comunque dell'aspetto ludico proprio in sé, che invece PS Vita, paradossalmente, non ha. Non riesco a sentirla una console che possiedo anche questa, però così bella ludicamente da un punto di vista proprio di, non lo so, di voglia giocattolosa di avere questa console rispetto al 3DS. quindi è sorto, diciamo, una sorta di pompino che faccio in seno al 3DS molto gratuito, non mi paga nessuno, però frequentando queste console. E invece io ti interrompo perché su oldgamesitalia.net è uscito un articolo che metteremo nella nota dell'episodio, che si intitola proprio "Perché non comprarsi un 3DS". Quindi cerchiamo di vedere un po' tutte e due le io onestamente, come ho detto, non lo conosco, non so minimamente di che cosa stiamo parlando. La cosa che mi interessava era sapere queste problematiche che ho sentito sul 3D, se veramente poi dopo in realtà si manifestavano in maniera così palese. Però insomma, diciamo, Luigi ha puntato l'attenzione chiaramente su un aspetto che è collaterale, no? Io penso che il risultato che voleva ottenere il 3DS fosse un altro, insomma, e secondo me non, probabilmente, ecco, con la versione XL, insomma, la versione più estesa, più grande, che sicuramente risolve tanti problemi anche a livello di giocabilità, probabilmente insomma le cose saranno sicuramente andate meglio. Però voglio dire, sta console col 3D è, e qui fate un giro tutti quanti, è un fallimento o no? Ma io ma cosa di che stare a parlare comunque? No, il 3DS non è che infatti il problema è che noi non, ma io in generale posso dirti che secondo me il 3D nell'ambito sia filmico che videoludico è prettamente, per quanto mi riguarda, inutile, perché nel film non ne vedo proprio l'utilità. Ma l'utilità è relativo, perché secondo me poi aggiunge profondità e aggiunge, sì, però è linguaggio in qualche maniera. Però il problema relativo è se può fare o no, è quello il problema. È sempre relativo, perché comunque, come diciamo, non è il massimo dell'universalità. Ma poi alla fine, se il film fa cagare, cioè se io faccio una cosa in 3D di uno che fa la cacca dentro al water, è sempre quello, non è che è sempre, cioè non è che mi dà più, per quanto mi riguarda non è che mi dà più di tanto. Sì e no, sì nel e videogioco no, che tra l'altro potrei anche concepire un po' di più, perché lì alla fine sono proprio mondi 3D in cui vuoi essere proiettato, però pure lì secondo me è, cioè, una cosa che ti piace, ti può piacere lì per lì, la novità, la sorpresa, però poi due palle alla fine. Che cosa ti va a cambiare? Secondo me forse anche per questo che non ho mai sfondato fino in fondo. Cioè viene lanciato di tanto in tanto, gode dell'effetto novità, viene ripetuto nel corso dei decenni, e poi dopo sparisce e poi ricompare. Secondo me è una cosa, una moda più che altro. Ma no, secondo me sono esperimenti, sono tentativi, in realtà è una tigna, però, quasi, è una tigna. Eh sì, una tigna, però alla fine... Comunque, vabbè, Alex sul 3DS si è espresso, anche Luigi, quindi a questo punto ci stanno Stefano e... Io velocissimo, parlando meramente di interazione tra videogioco e 3D, penso che il 3DS aggiunga qualcosa, ma non aggiunga abbastanza da rendermelo appetibile, purtroppo, per quanto riguarda solo la parte ludica, ovviamente. E quindi fa un passo avanti, ma non è così grande da farmelo acquistare o da farmici interessare. L'ho provato, ma non mi ha, dopo un po' l'interesse, lo stupore è andato via, diciamo, quindi tutto qui. Giuseppe? No, io sono, diciamo, un po' più lapidario, cioè secondo me il 3D nel 3DS è proprio la feature meno riuscita dell'intera console, e a riprova appunto del fatto che il 3D in generale per l'esperienza ludica conta poco. E infatti ho detto, sono più d'accordo, infatti, con... Infatti chi è che insiste di più sul 3D? A livello videoludico? Ah beh, più o meno si deve vendere le televisioni. Esatto. Perché? Giustamente, vabbè, esatto. Quello non penso che abbiano mai nascosto... Cioè, sì, però... Il CES di quest'anno ha dimostrato che il 3D ormai è già passato di moda. Esatto. Sì, ma... Cioè, lo sape... Allora... Quant'è? Saranno 3-4 anni adesso che c'è stata questa nuova riesplosione del 3D, come dice anche Marco, no? Però, cioè, noi lo sapevamo, cioè, chi segue queste cose lo sapevamo già in principio, perché ci sono proprio dei problemi oggettivi che comunque l'abbiamo spiegati. Poi, ovviamente, come dice anche Luigi, in realtà è tutto relativo, è vero, e sono pienamente d'accordo. Però a livello generale il problema c'è, nel senso, è oggettivo, che comunque, essendo una simulazione e... problemi di interpretazione e problemi di messa a fuoco, comunque in qualche maniera complicano la vita a tantissima gente, no? Quindi sta questione del 3D da una parte un po' mi rinfranca, perché siccome che io sono uno di quelli che il 3D non ne può usufruire, in realtà ero spaventato da sta cosa, perché per me sarebbe stata veramente la fine, no? Perché se veramente si andava verso quell'indirizzo, perché sì, è vero, ti danno sempre l'opportunità di scegliere, però quando una cosa diventa uno standard, prima o poi la possibilità di scegliere non te la danno più. E questo l'abbiamo visto in tantissime altre situazioni nel passato, soprattutto con la tecnologia. Cioè, nel senso, sì, ok, ritorniamo al discorso del Betamax. Sì, è vero, il Betamax era meglio del VHS, ma il VHS diventa uno standard. Però se vuoi comprare il Betamax, dopo devi comprare. Ma a un certo punto non è stato più possibile, no? Perché comunque si è standardizzato tutto in quella maniera lì. Questa è un po' la paura che avevo io verso il 3D, perché io comunque, insomma, la preoccupazione ce l'avevo se non mi devo andare a comprare il televisore 3D per usufruire di una cosa della quale io più o meno so di non poter usufruire. E questo, il problema è anche, sì, come dicevamo prima sui controlli, il controller di movimento. Sì, è vero, tu puoi decidere se giochi col controller di movimento o utilizzi il joypad, però nella preparazione, nello sviluppo del videogioco, quanto il fatto che tu puoi utilizzare il controller del movimento e quanto il fatto che tu puoi utilizzare il 3D influisce sulla lavorazione del progetto e potenzialmente anche a livello negativo. Questa è un po' quella che è stata la mia vera preoccupazione riguardo al 3D. Insomma, poi se volete esprimere, insomma, le vostre considerazioni. Io più o meno già ho detto che ti fa cagare, quello l'avevo intuito. Bene, allora direi che, a proposito, sempre parlando di 3D, in futuro si prevede qualche movimento in più, non solo, ecco, dal punto di vista di 3D, ma anche dal punto di vista della realtà virtuale, quindi una cosa, sicuramente una cosa un po' più immersiva. Dicono che la Valve, che sta producendo la Steam Box, a quanto pare in maniera reale, non è più solo un rumor, a quanto pare dovrebbe davvero uscire sul mercato. Adesso sui dettagli sono ancora tutti molto indecisi e imprecisi, esatto, però pare che abbia un certo orientamento per quanto riguarda la tecnologia della realtà virtuale, e di conseguenza, ci sto a scommettere, anche il 3D, e non solo Valve ma anche Microsoft con la nuova Xbox, la 720, insomma, per ora il nome non è ancora stato presentato, ma neanche la console, quindi non c'è problema con la prossima console. Ma in realtà Microsoft, se non mi sbaglio, ha buttato quella spot che arriva direttamente dai laboratori di ricerca di Microsoft sull'estensione dell'immagine del videogioco all'interno della stanza. E il Lumi Room. Bravo. Mm-hmm. Che anche quello. Detto, qualcuno me la spiega. No, cioè, al di là di tutto, che cazzo serve? cioè, può essere. È come se tu giochi con un proiettore che in realtà è più grosso dell'immagine dello schermo, e quindi si vede. Boh, non lo so, per carità, non voglio essere integralista, come dice giustamente Luigi. Cioè, nel senso, no, io non ammetto di non aver visto questo spot, quindi non so di che cosa state parlando. Praticamente, cioè, in questo spot, spiegalo te, Saso, che sei più. Spiegante. Giuseppe. È praticamente una tecnologia, non si è visto tanto, quindi pure io, diciamo, ne so abbastanza poco comunque, che praticamente proietta le stesse immagini che è del gioco, le estende per tutte le pareti praticamente della stanza, come se ti circondassero fondamentalmente. Però c'è pure il però, perché analizza prima di tutto la stanza, quindi viene, esatto, della profondità delle pareti, dei mobili, e fa partecipare gli stessi mobili, se ce ne sono, al gioco. Cioè, praticamente, se ci sono delle esplosioni nel video, non so, il tuo scaffale sembra che vibri, perché praticamente, esatto, fa vedere le linee che vibrano. Sembra un cazzo, secondo me non sembra. Ma può essere pure come esperienza. È un orpello. È che oggettivamente a livello funzionale non c'ha nessun senso. Ma magari l'anticamera di qualcosa di più interessante. Sicuramente. Della morte. Sicuramente. No, della morte. L'unico messaggio che mi sta dando è che Microsoft vuole continuare prepotentemente a prendere, diciamo, il predominio della stanza. Della stanza, esatto. Perché anche perché se ti ricordo, comunque. E poi c'è un problema in realtà, non tanto di accessibilità, quanto cioè, di accessibilità, diciamo, per vie traverse, quanto più logistico. Perché poi c'è appunto il discorso che tu devi comunque sempre avere una stanza spaziosa con una certa illuminazione, eccetera, per poter usufruire del gioco. Esatto, se già comunque ricordiamo che anche lo stesso Kinect richiedeva una certa distanza sempre dalla telecamera, avere comunque i mobili disposti in una certa maniera, ve lo ricordate? Sì, sì, e poi sì, se eri Carl Lewis non ce potevi neanche giocare. No, quello è il punto. Almeno che non sorridevi, almeno che non sorridevi. No, ma dico, non è che si sta passando da ok, eliminare il controller col Kinect ad avere problemi che non sono proprio superabili per motivi che non è che puoi ingrandirti la casa a babbo per giocare a qualcosa. Sono, come disse Alex Raccuglia qualche forse che salutiamo fa, che salutiamo sì. Ciao ragazzi. Come disse Alex Raccuglia tempo fa in una puntata probabilmente di Multimania, non ricordo neanche dove, proprio parlando del Kinect, queste cose sono progettate per gli americani, perché gli americani vedono loro a immagine e somiglianza dell'universo, e ovviamente le case degli americani tendenzialmente sono la casa col salotto grande, con la scala che vai di sopra, roba del genere. Cioè. Beh, ma non penso che la Microsoft sia così cieca da non preoccuparsi anche del mercato di tutto il resto del mondo. Ok, quello americano è un mercato enorme, gigante, che probabilmente è quello che gli frutta la maggior parte dei soldi, però c'è da dire che... Tanto il giapponese non se la compra. Sì, quello è vero. Cosa, ma non solo perché c'è la stanza piccola, perché no, no, no, se non gliela fa la Sony, non la compra. No, quello è vero, ma quello è un problema giapponese che poi si sta riflettendo in tempi recenti anche sull'America, perché gli americani comprano Xbox, i giapponesi comprano Sony e ognuno se ne sta per i cazzi suoi praticamente, ma è un discorso che non permette un passaggio di... C'è uno scambio praticamente di feedback, di contatti nel mondo videoludico, perché se si rimane tutti chiusi in questa maniera qui, allora si crea la console America che viene venuta su la console Europa, la console Giappone e così via. Cioè, secondo me è una cosa assolutamente controproducente, per non dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista dell'esperienza dei giocatori come giocatori, come persone, al di là di tutto. L'Europa, ricordiamo che è il Philips CDI, no? Sì, esatto. Madonna santa, e si è visto anche che fine ha fatto. Uno ce l'ha pizzi e l'altro... Anche cioè, giustamente. Giustamente uno ce l'ha pizzi e gli altri sono nascosti nel suo scantinato, credo, non lo so. E quindi dico... Bisogna stare un po' attenti, questo chiaramente lo dico a vuoto, ma secondo me bisogna appunto prestare attenzione a quello che si fa nei vari mercati, ma in maniera che ci sia, ok, una globalizzazione tra virgolette del prodotto, ma in senso buono, nel senso che sia fruibile da tutti, non che sia fruibile da persone che copiano gli americani o che cercano di vivere come loro, perché non sarebbe giusto nei confronti di tutti. Poi forse questo è un discorso troppo socialista, sì, non lo so. No, però tendenzialmente tant'è che comunque si sta andando verso questa estensione, no? Delle interfacce, questa estensione della virtualità. Come dicevi te, insomma, tramite Valve, anche la prossima Xbox pare tenda, insomma, a questo tipo di concezione, e si vede che ci hanno studiato sopra, io presuppongo. Ah, però ritengo sempre che sia comunque sempre marketing, cioè io ti do una console che funziona con il pad, funziona benissimo con il pad, va benissimo con il pad, però ti do pure queste minchiate che te le puoi comprare a un prezzo salatissimo. Per farci girare 5-6 giochi che poi ti rompi le balle, non è che ci giochi più. Penso che sia più che altro quello, cioè, io non lo so, perché qui insomma se una console poi comincia ad essere dedicata a quel tipo di discorso, vuol dire che c'è anche una progettualità, c'è anche un costo tecnologico, ma appunto secondo me non sarà il fulcro. Sì, magari riusciranno a fare una cosa ibrida, mi pare che forse era col Kinect che con delle patch avevano aggiustato un po' il fatto che non servisse più una casa, un salotto di 150 metri quadri, ma si potesse gestire la cosa. Ad esempio all'inizio non potevi neanche usarla da seduto, mi pare, e non ti riconosceva proprio, se non erro. Riconosceva il divano come sì, le spalle. No, e poi ricordo una cosa di un razzismo incredibile, una news, quando era ancora Project Natal, che erano andati in una fiera a farla provare e non riconosceva le... Il negro non ci riusciva. Esatto, sì, e non riconosceva sì, le persone di colore. Cioè, la prima... l'ho detto prima. Ah, l'hai detto prima? Sì, sì, sì, quando ho detto che... Carl, non bisognava che... essere Carl Lewis. Che Carl Lewis non ci no, poteva okay, giocare. Ok, ok, ok, no, era... A meno che non sorrideva, esatto, che a quel punto. Quello hai ragione, hai ragione. No, ok, no, mi sarò distratto. Vabbè, sentiamo anche Alex, Alex e Luigi. Poi, ovviamente, Alex Marrone e Luigi Racuglia. Però, effettivamente, questa volta il discorso è andato talmente avanti che non ho capito qual è la domanda. Effettivamente, vabbè, allora se state a fare i cazzi vostri, no, mentre che no, limiti, cazzi... no, allora, la domanda è: i limiti del luogo di fruizione della console e le richieste sempre maggiori da parte delle periferiche e o delle console, ah, no, okay, sì, nelle dimensioni del luogo di utilizzo, quindi. Vedi Piggio, Madonna, no, ma perché la domanda che c'è scritta qua parlava di Valve, ma va bene, chi ah, se no, ne beh, vabbè, ma sì, lì è un punto di partenza, uno spunto. Boh, io credo che stavolta, se Microsoft presenta un Xbox 720 col Kinect 2, la farà funzionare con tutte le razze, probabilmente anche con i cani, i gatti e anche nel bugigattolo, se sono... se sono furbi, se no c'è la patch, non c'è problema. Se no c'è la patch, non lo so, ripeto, secondo me non hanno ancora capito effettivamente come sfruttare appieno la Kinect 1, per cui non so se c'è da preoccuparsi. Ok, non credo che la lanceranno fra due anni la console, credo che la lanceranno quest'anno. No, quest'anno esce. Sì, sì, cioè, secondo esce, me la lanciano, poi non so. Il Kinect esce. Dal mio punto di vista, questa però è una previsione per quello che può valere, il Kinect 2 sarà una versione 2.0 del Kinect che funziona bene, molto più accurata, magari che quando ti scatta la foto è più bella, che il rilevamento è migliore, che non c'è molto meno lag. Io non credo che faranno una Carlo cosa e anche Carlo ci può giocare. E anche Carlo si può giocare. Non credo che faranno una cosa talmente rivoluzionaria. Anche perché, ripeto, tutti gli strumenti che ho visto, anche progetti su Kickstarter di rilevamento motorio, soprattutto quelli più economici, puntano a rilevare anche solo parti del movimento. Cioè è ovvio che il controller sei tu, se però riescono a fare una cosa più accurata che ti permette di controllare anche solo usando la manina o non so, facendo la linguaccia, diventa anche più comodo per certi versi. E anche più comodo per cambiare il canale. Non è che per cambiare il canale devo mettermi nudo e col pisello fare a destra e a sinistra per poi no, vedere. Ma mi è venuta in mente una cosa ancora peggio. Scusate, faccio una digressione, poi passiamo a Luigi. Abbiamo parlato nell'ultima puntata di archeologia videoludica, nella puntata di Natale. I giochi più brutti che uno se li regala, se li avesse regalati a Natale, avrebbe perso un'amicizia. E c'era quel famoso gioco Replay, no? Replay, no? Ve lo ricordate? Il gioco giapponese che tu devi stuprare le ragazze. Sì, bellissimo. Insomma, finito centinaia di volte. La cosa è, allora io pensavo applicare il Kinect a giochi beceri come penso questi, che cioè, comprerei il Kinect istantaneamente in quel caso. E deve essere contenta la tua ragazza che sta nell'altra no, stanza, ma che no, tu dica sì, sì, sì, diciamo. Perché poi no, ho solo detto, ho solo detto che comprerei il Kinect, quindi non c'è problema quello. Ma la tua ragazza parla svizzero o è italiano? Va a 20 metri da casa mia a Cagliari, quindi parla svizzero. Guarda parlare con te, ma la Sardegna è un posto un po' strano. Si parla tendenzialmente si parla italiano comunque in Sardegna, in linea di massa. No, ma italiano è una parola grossa. Però, ci sono stati in Sardegna. No, dove no, vabbè, per carità, Ok. Ok, e di Valve nessuno dice, Alex, volevi dire qualcosa? Allora, sì, io pensavo più a Valve, che fondamentalmente se loro hanno iniziato a svilupparla 3 anni fa, ed è mi sembra al minimo quando fai una cosa avere un piano di almeno 3 anni, 3 anni fa tutti dicevano il 3D è il futuro, il 3D è il futuro, allora facciamo una console a prova di futuro, facciamola in 3D, poi il futuro nel frattempo è cambiato. Esatto. È diventato passato. Esatto, adesso il futuro è il 4K per quello che può valere, per cui rimangono lì con una console che gestisce il 3D, gestisce anche bene, poi magari la gente non gliene frega più un cavolo. E sti cazzi, infatti, sì. Ma a questo punto effettivamente riassumi soltanto con una parola. Io e sti mi auguro cazzi, che non spingano su Luigi 3D, tra parentesi. Quindi. Dunque, no, ma ormai meglio è finito, così, è finito, così. Dai, comunque. Ma che ne sai, Simone? Magari Valve fa questa cosa, fanno una killer app, fanno Half-Life 3 che giochi 3D e tutti se la comprano. Tutti. Esatto, tutti se la comprano perché è il gioco migliore della storia e il 3D diventa automaticamente il nuovo futuro. No, non è, secondo me non è l'applicazione, cioè è il sistema. Cioè, se il sistema 3D funziona, funziona. Se non funziona ed è una replica di quello che abbiamo visto fino adesso, non funziona. Pure se fai Half-Life 3D, cioè è chiaro che aiuterà nelle vendite, ma non ne decreterà il successo definitivo. Cioè, questo è il discorso. Ma sì, ma non è. Cos'è successo? Cos'è non è successo? Dopo che hanno fatto Il Re Leone, la Disney ha fatto una vagonata di film dove c'era gente che cantava. Partendo già dalla Sirenetta. Sempre fatti, dai, su, sì, da Biancaneve, però, su. Biancaneve non cantava nessuno. Ah, no, ma Biancaneve come sì, no? Una rottura dei coglioni, tutti a cantare. Ma tutti cantano da Disney. Cantava il gallo per introdurre una cosa, però non erano i personaggi che cantavano. Vabbè, ok, fondamentalmente hanno fatto dei film con lo stampino perché gli è andato bene una volta. Metti caso che sta roba qua, Half-Life 3D, vende 100 milioni di copie, fanno tanti soldi da andare sulla Luna e cosa facciamo? Tutti quanti dicono, facciamo un gioco per la Steam Box, facciamolo in 3D, facciamo la brutta copia di coso, fanno, che ne so, Call of Duty, Ale, tutti fanno Grand Theft Auto in 3D, fanno tutti questi giochi qui. A un certo punto il 3D diventa il nuovo futuro. Alex, comunque vedi che comunque il 3D, specialmente con gli sparatutto, comunque i giochi che hanno monolico tutto, che hanno comunque molto movimento, possono comunque anche creare anche sulle persone più resistenti delle ripercussioni, diciamo, di malori. Ma questo perché i videogiochi fanno male, no, davvero, come diciamo l'equivalente di quando dici che te ne esci poi dopo 3 ore di proiezione e diciamo ti bruciano gli occhi. Esatto, lì è peggio, è proprio un fenomeno studiato, il motion sickness. Cioè pensa che la gente che ha provato pure i prototipi di Oculus Rift per esempio a Colonia, comunque già dopo mezz'ora comunque uscivi che dovevi sederti un attimo perché non riuscivi più a stare all'impiedi, perdevi proprio la testa. C'erano proprio i dischi. Le piace, signora? Bellissimo. A parte gli scherzi, cioè io l'ho provato una volta, è morta mia zia che stava a finestra. No, comunque vabbè, dai, è vero, cioè a parte che il motion sickness ce l'hai a prescindere, cioè alcuni sì, ma col 3D lo soffrono a prescindere dal 3D. Sì, dico, ma col 3D viene diciamo all'ennesima potenza. Esatto, cresce esponenzialmente. Vabbè, Luigi. Dunque faccio un'analisi, secondo me, dal punto di vista economico, di politica e di cecità molte volte giustificate che hanno le grandi software house, in questo caso hardware house. Microsoft forse non si rende conto, secondo me, di quanto cavolo siamo in crisi, e quindi non è che tutti possiamo permetterci il top dei televisori o avere dei bei salotti giganti come ci propina nelle sue pubblicità. Quindi quando vado a pensare all'implementazione di un sistema che ti permette di mappare la tua stanza e quindi di avere la tua stanza a disposizione, eccetera, io penso non è che faccia moltissima gola alla molta utenza che invece vive in maniera molto ristretta. Questo è secondo me un deterrente forte rispetto all'immagine pubblicitaria che si vuol dare del gioco. Il Nintendo Wii, per esempio, con il suo Wiimote era molto più semplice, come dicevate voi prima, è facile vedere io che taglio una melanzana o che cucino, che faccio questo movimento che si ripercuote sullo schermo, ma avere invece una mia stanza intera nel quale viene proiettata un'immagine olografica o meno, comunque viene vista come campo di gioco, non penso che abbia tutto questo appeal. Fondamentalmente sembra più una cosa pirotecnica o legata comunque alle dimensioni, che non è una realtà molto fattibile in sé come a livello di intrattenimento. E quello che avete visto, scusate non mi ricordo il nome, Illumirum, cioè mi sembra davvero una cosa più orientata verso la leziosità che non verso il gioco in sé, l'immersione. Ovviamente posso anche sbagliarmi, per carità, però fa parte di, come dicevate voi, di quei tentativi di sperimentazione per vedere, questa è una tecnologia intermedia, buttiamola lì, vediamo dove, cosa va a colpire, raccogliamo dati e costruiamo ancora per il futuro. Con questo io dico che sicuramente arriveremo a un tipo di realtà virtuale, cioè nel senso un altro mondo, un'altra immersione, un'altra interfaccia, ma probabilmente questi sono esperimenti intermedi che ci permettono soltanto di tracciare una direzione, non di analizzarla se può avere successo o meno. Cioè, io non farei il discorso avrà successo o meno, è bello e brutto, fa cagare o altro. Io farei semplicemente, prendiamolo questa com'è, un'industria in crescita, sta provando nuove realtà immersive, e vediamo un po' di ecco, di divertirci a più vedere più o meno a ipotizzare su dove si può arrivare, che poi la gente vada a comprare queste tecnologie che sono in erba, ancora c'è erbe o meno, questo è un altro discorso, però ripeto, qua si sta parlando di soldi della gente, si sta parlando veramente di investire su un qualcosa di cui non sappiamo esattamente dove andrà a sbattere le corna, fino a quando sarà implementato nella prossima Xbox. Lo voglio anche, come si può dire, prendere per buono, cioè compro un sistema che mi offre certe cose, il mio rischio e pericolo, io lo so, e se ci fate caso si è parlato di Microsoft di console non tutte dello stesso calibro, ci sarà una diversificazione marcata, quindi io penso che alcune console avranno non soltanto la differenza di memoria, per intenderci, interna, ma anche alcune funzionalità attive e alcune non. Non mi stupirei se una avesse il Kinect integrato o il Kinect 2.0, come vogliamo chiamarlo, e un'altra invece è vendibile a parte. Cioè, penso anche a queste cose qui, insomma, perché si tratta veramente di soldini, in un periodo simile non ci si può permettere di fallire e sbagliare i colpi per un investimento così grande. Quindi niente, questo è un po' il mio pensiero, il mio scetticismo anche, perché poi sono curioso ovviamente di sapere come sarà tutto, questo non me lo togli nessuno. Ma la curiosità, per carità di Dio, chiaramente, no? Nel senso, non saremmo appassionati anche di tecnologie e dei videogiochi o comunque di tutto quello che un po' circonda l'informatica, anche insomma, se non ci avessimo la curiosità, ed è una cosa che in realtà ci ha sempre un po' spinto anche a sapere come sarà, no, il gioco che arriverà dopo, come sarà la console che arriverà dopo, come sarà la grafica del futuro, tante cose, insomma. Quindi bene o male, in linea di massima, il discorso della curiosità è un discorso che ci appartiene ed è importante. È chiaro che poi dopo un po' il dubbio ti viene, no, sul fatto che in realtà noi tante volte consideriamo, che ne so, questi produttori come gente che produce giochi anche per farci contenti, ma allora poi fondamentalmente, secondo me, le farci contenti gliene frega fino a un certo punto. Loro vanno dove le loro concezioni anche del mercato li portano, perché comunque quello che devono fare è fare i soldi, insomma, quindi è un po' questo. Però noi dal lato nostro, quando vediamo determinate cose, oltre alla curiosità c'è il nostro scetticismo, perché diciamo sì, ok, può essere divertente fare un certo tipo di attività giocando, muovendosi e via dicendo, sì è vero, può essere stimolante magari avere alcune esperienze 3D, ma tutto non può essere applicato a tabula rasa su ogni cosa, così come non possiamo pretendere che questi nuovi sistemi siano però ovviamente accessibili a tutti. E questo è secondo me un po' il dato di fatto, e ritorno al fatto che secondo me quello che abbiamo detto all'inizio puntata, ossia che comunque il controller per definizione, per quanto non universale neanche quello, ma il più universale resta sempre il joypad e il monitor alla distanza che tu decidi di stare, sì. Indipendentemente poi dal fatto che se usi le cuffie, se usi le casse, okay, o roba del genere. Questa sì, è un po' la mia opinione da persona che ha giocato a determinate condizioni, perché magari in certe situazioni ci ha avuto determinate difficoltà, insomma, no, nel senso, quindi io personalmente mi rendo conto, ecco perché per me poi questi magari erano temi che comunque in qualche maniera mi hanno ho sempre considerato abbastanza vivi, no? Perché comunque mi piace fare determinate cose e so che se le condizioni attuali cambieranno, so che potrei avere difficoltà a farle nel futuro. E questo è un po' il discorso che faccio io, e che è un discorso che tiro fuori perché magari spesso e volentieri su altri podcast, su altre situazioni, probabilmente nessuno avrebbe avuto magari in mente di tirar fuori, perché la gente giustamente non ci pensa, cioè, ma è anche normale, insomma, no? Se non c'hai un problema non te ne rendi conto, insomma. Sì, sì. Simone, io sull'ultimo punto a voi lo giro a te. E ho lasciato il silenzio mortale intorno a me. No, io c'è ancora Stefano. Beh, io entro un secondo dicendo una cosa, perché non sono d'accordo su quello che avete detto anche lievemente tu e Luigi. Io non credo che mai una multinazionale del calibro di quelle, ma anche una qualsiasi società che ha dimensione più di 10.000 euro, possa presentare sul mercato un prodotto pensando che questo sia un esperimento. No, cioè loro vogliono una cosa che spacchi, magari appunto hanno dei margini di rischio, ma non puntano una cosa senza che pensare che ci possano rientrare. E anzi, se vanno fuori con i costi, dicono: oh, sti cazzi, qui qualche testa deve rotolare, perché qualcuno ha sbagliato le analisi. Cioè, quindi col discorso virtual console, come la metti? Che quella che fece Nintendo al tempo. Cioè, scusa. Cioè, nel senso, virtual console che ha avuto fare Nintendo senza supportarla poi, presentando tre giochi. Scusami, perdonami, il Virtual Boy, sì. Ah. Come la inquadri? Cioè, nel senso, perché allora, teoricamente... secondo me ha detto un po' di, cioè, di fallimenti programmati o non programmati, comunque spesso e volentieri le case allora, le tirano fuori. Funziona così, fai partire un progetto, arrivato a un certo punto dici: oh cazzo, ci siamo sbagliate, secondo me è una minchiata, e a questo punto sei già lì con delle cose, beh, o la va o la spacca, vai, vedono che dopo i primi mesi non c'è stata risposta, è ovvio che non lo sopporti più. Sì. Io la vivo così, non presenti però una cosa se non hai, non dico una certezza, ma almeno una speranza di guadagnarci. No, infatti qua non si sta parlando di fallimento, cioè nel senso che io vado con ottica di fallimento o di sperimentazione, sì. Occhio, io dico semplicemente che loro già sviluppano le tecnologie che verranno magari dopo quelle che stanno mettendo sul mercato, cioè sì. Contemporaneamente al Kinect c'era già il Kinect 2.0 che stavano portando avanti, ma anche oltre, sì, ma così andiamo come le mercatotecnologia, i chip dual core dovevano smaltirli, però già avevano presenti il quad core, solo che sì. Dici che cosa ci facciamo con tutta questa roba, quindi ti danno una dilazione di tempo nel quale tu magari vai a provare una tecnologia, in questo caso che non è quella che stanno sviluppando in realtà per il futuro, ma è quella che hanno sviluppato magari 3-4 anni prima già. Allora questo sì. Voglio dire che quando uno si va a approcciare a queste realtà deve sempre pensare che sono comunque realtà intermedie, cioè Kinect ad esempio già stava sviluppando Microsoft il riconoscimento digitale del movimento delle mani, delle dita, solo che non l'ha implementate nel Kinect, c'è ancora quella soltanto delle mani in cui le dita rimangono non mappate. Ecco quindi che loro sapevano che quella è una realtà intermedia, che poi ma questo sempre nell'industria, non sì, esiste sì. L'oggetto definitivo, però ripeto, non credo che un'azienda, ripeto, Kinect comunque è stato un prodotto su cui Microsoft ha puntato, ci credeva e hanno anche avuto successo, cioè non credo che sarebbero mai partiti dicendo: ok, questa è una minchiata, la facciamo tanto per farla, vediamo come va. No, ma mi spiace soltanto questa impressione, perché no, sarebbe chiedo scusa, io ho capito male, io suicida, no ovviamente loro puntano moltissimo sul marketing, perché quando hanno fatto quella bellissima manifestazione di presentazione del Kinect, ovviamente volevano dire: guardate che noi siamo i primi a portarvi su un altro modo di intendere l'interazione, dove voi diventate il controller. Ora che stessero sviluppando un controller che era anche migliore rispetto a quello che avevano presentato, che è l'attuale Kinect, questo è fuori di dubbio, però sicuramente è chiaro che ci credono, anzi loro è il cavallo di battaglia Kinect, non finiranno mai di supportarlo. Fa pensare invece, se ci fate caso, quello che è successo col Wii U, cioè il Wii U viene pubblicizzato, portato avanti col gamepad, tralasciando totalmente invece il Wiimote, che in realtà è una cosa fondamentale, centrale per Nintendo. Cioè, se ci fate caso, cioè, la gente adesso, la percezione del Wii U, non parlo di noi ma parlo di ovviamente chi ha il Wii a casa, del Wii U, che non è una console, si domanda se può ancora utilizzare il Wiimote. Non so se ci avete fatto caso a questa cosa qui, perché non è per niente portato avanti il discorso Wiimote, ma Wiimote è una realtà ancora presente, è ancora il fiore all'occhiello di Nintendo. E questo molte volte che mi dà da pensare, è come quando fece la presentazione della console e presentarono soltanto il gamepad e sembrava che la console fosse il gamepad, e perché non c'era la console visibile quando lo presentarono, chiedo a te Giuseppe, alle 3. Sì. Io due o tre fa c'era il discorso che avevamo solo presentato, fatto vedere il gamepad senza voler vedere la cosa, e la gente fino praticamente a 6 mesi fa non aveva idea che il Wii U fosse una console diversa, tant'è che addirittura fino a oggi vi ricordo ci sono, vedete in molte catene di elettronica o anche di videogiochi esposto la scritta, guardate che i giochi del Wii U non funzionano sulla Wii. Non so se ci avete fatto caso. Sì, la gente ha ancora la percezione che sia una periferica aggiuntiva. E questa è la cosa pazzesca, perché se una grande software house deve puntare sopra il marketing, cazzo, non lo puoi sbagliare una cosa simile. Cioè, veramente è deleterio, ma è ingenuo. Non so nemmeno come identificarlo, perché ricordiamolo, il grosso delle vendite lo riescono a fare loro, perché hanno anche dei reparti in cui il marketing possono investire tantissimo. Quindi, se vogliono portarti avanti una qualsiasi periferica, anche la più stupida, loro riescono attraverso una pubblicità ad hoc a farlo, che taglia via tantissime altre invece possibilità. Adesso in Oculus Rift, chi di chi ci ascolterà, se dovessimo ampliare veramente l'audience, sa cos'è l'Oculus Rift. Lo sappiamo in quattro gatti perché abbiamo seguito, ma se fosse stato un aggeggio portato avanti, che ne so, da Nintendo, per dirne una, tutti avevano in bocca adesso l'Oculus Rift come realtà virtuale. E queste sono cose fondamentali, cioè sono differenze che poi vanno a cambiare la percezione che si ha del videogioco a livello planetario, e quindi anche quanto andranno a investire le grosse case di produzione su un determinato tipo di prodotto, su un determinato tipo di marketing. Non so, c'è anche questo discorso da fare, eh. È un po' come dire, non vorrei in futuro che i giochi e i gameplay, level design, vengano strutturati secondo degli achievement, gli obiettivi. Cioè, per far ottenere un determinato tipo di obiettivo che è stato pensato a monte, allora creo il level design in quel modo lì. Sarebbe una cosa assurda, pazzesca se ci pensiamo. Cioè, il gioco deve essere il gioco e poi ci appiccichi gli obiettivi. Non puoi fare il contrario, guidare un videogioco a secondo gli obiettivi da sbloccare che hai in mente, giusto? E molte volte invece viene da pensare che si possa spingere un prodotto a livello tecnologico perché c'è una buona campagna di marketing che lo sorregge, un po' come a livello politico per i voti, no? Non è un ottimo politico questo qui, però se facciamo un sacco di pubblicità, non mi riferisco a nessuno in particolare, soprattutto in questa fase di elezioni. Io ce l'avrei, Io, tra l'altro, c'è Beppe Grillo nella mia città stasera. Registrando qui. Ora non è che dico ho preferito di trilogia Beppe Grillo, però mi sarebbe piaciuto esserci per vederlo dal vivo nella mia città, vedere un po' che forza trascinante ha vis-à-vis. E quindi niente, prendo tutto molto con le pinze ultimamente, perché so che la maggior parte delle cose che vanno avanti molte volte non sono legate a delle bontà prettamente tecnologiche, ma soprattutto di come se ne parla, di come viene pubblicizzato, di come si vuole far passare un messaggio. E quindi prendo atto, insomma, di questa realtà un po' mistificata, che è quella in cui rientra anche il videogioco. Ok, allora, dato che siamo un po' in là e vedo anche che abbiamo dei problemi tecnici e non sappiamo quando riusciremo a recuperare il Biggio, che nel frattempo è... Perché lui utilizza connessioni in cioccolato fondente. Esatto. Qui, allora, io direi, se volete fare un commento finale, facciamo una rapidissima... rotazione su questo discorso generale che abbiamo fatto dell'accessibilità, insomma, quello che è magari il modo in cui volete sintetizzare una vostra opinione finale o come vedete magari l'accessibilità rispetto al videogioco nel futuro, e poi andiamo ovviamente alla parte della posta, sperando che, insomma, prima dei saluti finali riusciamo a recuperare anche Stefano, che si vanta della sua connessione svizzera in maniera indecente, e infatti queste sono le conseguenze. Eccolo, forse ritorna. Comunque partiamo da Alex. Bella domanda. Francamente non ho una risposta univoca. Io penso che il movimento comune sarà quello di creare delle interfacce che andranno via via verso i territori che sono stati esplorati da Wii prima e da Kinect poi. E secondo me, per certi versi, qualcuno o terze parti oppure delle piccole sezioni di queste grandi aziende creeranno invece delle versioni apposite per l'accessibilità, un po' come sull'iPhone c'è cioè tutta la sezione di accessibilità per i povedenti, per pessime tra l'altro. Pessime, sì, il problema è che appunto non loro ci provano, è ovvio che non è un telefono per gente non vedente, però nel senso ci saranno altri telefoni probabilmente, io non so, non conosco questo segmento di mercato. Allo stesso modo probabilmente qualcuno svilupperà la versione per tutti tra virgolette dei game o delle interfacce, però questo sarà sempre una sorta di patch. Un po' per lavarsi le coscienze, un po' per permettere a un'altra fetta di mercato di accaparrarsi dell'hardware. No, perché sono sistemi operativi che da quel punto di vista lavorano bene, altri device o robe genere lavorano meno bene perché probabilmente non hanno trovato magari la soluzione facile o perché magari non gliene frega anche niente, potrebbe anche starci. Comunque, sul fatto che gliene frega niente è abbastanza chiaro, nel senso in generale, cioè voglio dire, comunque alla società normale comunque di problemi che non li riguardano gliene frega fino a un certo punto. Questo... Guarda che noi siamo Sparta senza il pozzo, eh. Bravo, esatto, diciamo, questo è un dato di fatto a prescindere. Mo io non è che, nel senso, non è che sto a parlare di me nello specifico, anzi no, chiaramente fortunatamente non sto a parlare di me, ma dico in generale, nel senso che è un problema che abbiamo riscontrato tante volte e in tante altre situazioni. Comunque mentre che Stefano fa capoccella e ricade e Peppe vai tu. Io ho detto, sono d'accordo con Alex, però ho detto vi lascio solo con la mia, diciamo, preoccupazione e speranza di una cosa che non si avveri, cioè che sia sempre comunque fondamentalmente quello che mi interessa è che il gioco sia sempre cioè il controller sia sempre solo un tramite per il gioco e non viceversa, cioè che il gioco fondamentalmente sia influenzato, specie durante le fasi di sviluppo, dal controller, certo. Esatto, assolutamente, su questo so. Questo è quello che perché poi ovviamente come abbiamo parlato finora sminuirebbe poi esatto, un tecnico, esatto, sì, vabbè, quello lì, vabbè. Un termine tecnico produce merda. è tardi per tutti. sono d'accordo al 100% con Giuseppe. Luigi? Io sto giocando attualmente Metal Gear Solid 3 Snake Eater in HD. È un casino di comandi, ovviamente, il joypad, però dopo che cominci a rientrarci dentro, perché ovviamente l'ho giocato anche su PS2, è tutto quanto ti diventa semplice o quasi intuitivo. Non c'è bisogno né di 3D né di realtà virtuale, eccetera, per riconoscere un grande gioco da uno mediocre. Sì. Sono d'accordo. Approvato all'unanimità. Esatto. C'ho poco da aggiungere. Ma un po' spiazzato questa. Marco. Innanzitutto mouse e tastiera forever. Il microfono sta qua, Marco. Ah, questo è il microfono. Sì, esatto. Mouse e tastiera forever. Che comunque sono sempre mouse e tastiera. Sicuramente in futuro si modifica. Secondo me, innanzitutto, il joypad e il mouse e la tastiera sono non plus ultra del gioco. E penso che anche se cambieranno forma, magari i materiali verranno integrati, saranno potenziati, quello che ti pare, però comunque quello resterà. Tutto il resto sono orpelli, sono mode, sono oggetti di nicchia per determinati tipi di giochi e per determinate persone. Il joypad e diciamo mouse e tastiera, comunque diciamo i device classici, sono quelli più accessibili per tutti, quelli più facili per tutti, quindi penso che in qualche modo, in qualche forma, resteranno sempre. E Stefano? Sì, io anch'io sono tornato un po'. Se riesci a sopravvivere alla connessione. Spero di sì. Questa connessione va o troppo bene o troppo male, non ha la via di mezzo purtroppo. Comunque, io sto giochicchiando a due giochi bidimensionali, quindi anche un ritorno alle origini, una cosa abbastanza standard. Come? Però su schermo 3D. Però su schermo 3D, esatto, perché mi piace infastidirmi, mi nutro di fastidio, come diceva qualcuno. E sono Mark of the Ninja, uno strano stealth game bidimensionale, e il nuovo di Suda 51, sì, mi pare, Black Knight Sword. Gioco molto molto molto particolare per Xbox Live Arcade. Anche lì, appunto, senza utilizzo di grosse tecnologie, una cosa abbastanza semplice e accessibile a tutti, anche in questo caso. E poi vediamo, penso che in futuro Devil May Cry, quasi quasi. Vediamo, Un attimo, sì. Puoi farlo girare su una... È originale la tua console Xbox? In che senso? Attenzione alle domande. Attendiamo la risposta. Facciamo così. Che tanto stai in Svizzera, può dire quello che vuoi. Sì, ma in ogni caso è indagare anche in Svizzera. Okay. No, dico, ma Xbox Live comunque puoi scaricare dal Live Arcade anche se hai una console. Allora dipende, se hai una modifica solo del lettore. Puoi utilizzare il Live Arcade, il Marketplace, eccetera, eccetera. Se è una modifica via chip, quindi il cosiddetto JTAG o RGH, mi pare. Lì no. Praticamente la tua console è quasi del tutto offline. Perfetto. C'è da dire una cosa comunque, attenzione qua, dietrologia videoludica non incentiva assolutamente pirateria. Assolutamente. Siamo contro, quindi... Ma lo dimostra il fatto che io non sapevo nemmeno di questa cosa qui, siamo tutti ingenui. Ma io non ho sentito parlare da un mio amico di Napoli, capito? Ecco, è pure razzismo. Dietrologia videoludica non incentiva neanche il razzismo. Ma se mi avete maltrattato tutto l'episodio, un ignorante. Questo è vero. Il solito sardo che fa scuola alle pecore, esatto, capito. Lo hai detto te veramente. Lo sbagliati da solo, se consideri che per metà della puntata non facevi su e giù con la collezione. Vabbè, lo so, ragazzi, comunque. Io direi a questo punto, insomma, di andare direttamente, insomma, a fare i saluti finali e l'angolo della posta. Scusa Stefano, se ti ho scippato. Intanto tu sei sardo, quindi siamo abituati a farci rubare le cose dai continentali, quindi. E quindi chiudiamo qui la parte fondamentale e centrale di ideologia videoludica. Allora, dal sito di ideologia videoludica io vado veramente molto molto veloce, non me ne voglia assolutamente nessuno, però veramente si è fatta una certa e come sempre le nostre puntate poi alla fine delle discussioni sono sempre puntate fiume, sempre, sì, proprio flussi di coscienza. E comunque al sito di dietrologia di dietrologia videoludica ci viene a salutare Marpo, che insomma io penso che dovrebbe essere una conoscenza di Retrocast, sì, quindi sì, sì. Ci fa piacere, insomma, una puntata divertentissima, saluto a tutti, un commento veramente molto approfondito sulla puntata scorsa, quella natalizia. Comunque ringraziamo Marpo, ma c'è anche un simpatico nuovo utente che tra l'altro si è iscritto anche al sito e quindi ci segue, che si chiama Gimli94. Forse no, Gimli, devi dire Gimli. È il nano del Signore degli Anelli, quel film in 3D. È un amico di Sboromir. Amico di Sboromir, ok. Che vabbè, ha iniziato insomma da poco a ascoltare dietrologia videoludica, ha ascoltato la prima puntata, poi la puntata su Dragon Age, e anche se ha soltanto 18 anni, insomma, gli piace moltissimo ascoltare le nostre trasmissioni, che sono insomma particolarmente divertenti, e soprattutto gli piace seguire insomma le varie divagazioni che insomma prendono il via dalla nostra trasmissione. Fa tutta una serie di riflessioni che insomma leggeremo magari la prossima volta. E c'è stato poi l'articolo di Giuseppe Saso, che dicevamo all'inizio, che parla di religione nei videogiochi, ed è un articolo particolarmente interessante, io penso però qui dobbiamo fare un però aspetta, perché qui c'è stato Luigi che si è sbagliato, ha scritto un articolo e l'ha postato nel, nei commenti di Saso. Dobbiamo fare qualcosa per rimediare. No, perché poi c'è una storia che Luigi sa, lo possiamo dire, Luigi, tanto scherziamo, nel senso che siamo fra di noi, che ogni tanto diciamo vabbè, ma Luigi, ma scrivi un articolo. No, giustamente Luigi non c'ha tempo, io lo ammetto, lo so che lui non c'ha tempo, però poi dopo vado a vedere che ha lasciato un commento all'articolo di Peppe che praticamente è un articolo. Allora ha fatto il controarticolo, l'articolo esatto, di risposta. E allora Marco gli ha scritto come commento, come contro risposta, gli ha scritto: ma ah sì sì, bello, ma l'articolo no. Vabbè, comunque dell'articolo di Giuseppe ne parleremo in una puntata specifica, perché faremo è un tema che effettivamente andrebbe trattato, andrebbe poi esatto, una puntata che... su Giuseppe, giusto, quindi no, specifica su Giuseppe. Esatto, su Giuseppe. No, siccome che in realtà l'esperimento della puntata di Natale è stato un esperimento carino, io penso che fra una o due puntate rifaremo un'altra puntata sugli articoli del sito, perché secondo me poi anche da lì ci sono tanti spunti di riflessione che non sono veramente male. Quindi mi dispiace, non ne parlo neanche dell'articolo, perché sarebbe veramente riduttivo parlarne veramente in tre minuti. Ma magari accenniamo solo il nome dell'articolo, così chi vuole se lo va a leggere poi... No, il nome dell'articolo. Scusa, hai ragione, scusa. Che è, come sentito l'articolo? Religione e videogiochi, un falso tabù. Un falso tabù, okay. Sì, in effetti. Poi tra l'altro, vabbè, devo dire che la media in generale degli articoli sui su dietrologia videoludica sta comunque crescendo. Per poi, fortuna che ci sono, che ci siamo io e Stefano che abbassiamo, ma anche io. No, la media qualitativa o la media numerica? Perché... io abbasso tutte e due, quindi non c'è nessun problema. Tra l'altro salutiamo Danilo Tanda. Sì, il mio amichetto. Che è entrato a far parte anche lui dello staff di dietrologia videoludica. Salutiamo anche Morgan, che comunque ci sta dando una mano. E salutiamo anche Alex Raccuglia, che è qui con noi, perché anche lui insomma ha cominciato a postare ogni tanto, ogni due o tre mesi, qualche articolo a seconda degli spunti, perché comunque poi anche il notiziario dobbiamo che è Nino, e poi giustamente il anche il notiziario, perché lui ci fa le notizie, il newsaro, che è ovviamente Nino Nicita. Beh, ma anche poi Simone da... cognome. Ah, sì, giusto, Simone Andreozzi, salutiamo anche, è vero, hai ragione, perché tanto noi stiamo andando di corsa, perché tanto da IPN, dalla pagina Facebook, da Google Plus e su iTunes non mi pare ci siano, non so se su iTunes c'è una recensione. Non ho controllato, dire la verità. Non ho controllato neanche Google io. Google Plus c'è sempre William Shatner che ci chiede che cazzo siamo. Quindi ubriaco. Poi vabbè, io voglio, ripeto, io so contare fino a 5, per cui io conto 5 collaboratori, il resto sono 5. E pensa che è lui quello che coordina la linea di del sito. Infatti sono 7-5 articoli. Siamo in buone mani. Tutto bene. Infatti. Va bene. Detto questo, ragazzi, io scusate, insomma, in maniera molto frettolosa con la quale stiamo chiudendo la trasmissione, ma veramente si è fatta una certa e domani ancora è un giorno di lavoro. E Alex deve, tra l'altro, deve andare a girare un cortometraggio, uno spot. Nintendo. Non so che cazzo deve andare a fare. Devo andare ad intervistare Cristina Ortolani. Grande Cristina Ortolani. Esatto. Che salutiamo Un Paese 100 Storie, un'iniziativa che ne parleremo in IPN, insomma, più approfonditamente. Ciao Giuseppe. Ciao. Vabbè. Ricorda sempre siti, cose, così almeno. Ah sì sì, vabbè, mi trovate come sempre, come ho già detto, sul mio aggregatore Tumblr, vitaingioco.tumblr.com, che tra l'altro è veramente una gran trovata, perché in effetti siccome che Saso Giuseppe c'ha varie situazioni, esatto, lì proprio c'è sempre tutto, quindi sì, a me sì, mi ha fatto veramente comodo, mi ha fatto scoprire un mondo, io neanche lo conoscevo. Ma in realtà comunque diciamo è fondamentalmente, lo sto usando come alternativa a Pinterest, perché fondamentalmente si limita appunto a riportare tutte le mie realtà in rete, anche perché vabbè, tanto tu pretendi che io sappia che cos'è Pinterest. Vabbè, no, insomma, vabbè, non ti preoccupare. Allora Luigi. Sì, ciao a tutti e ovviamente grazie come sempre per avermi convocato. E vi auguro buon convocato, sei parte di noi, come si dice. Quindi... sì, poi, insomma. Luigi non si convoca, si evoca. Bravo, è come l'alta marea. Hai ragione. Alex, tu che ce n'hai vari, c'hai anche vari podcast, poi saluta e... Saluto tutti quanti, direi videodigaz.wordpress.com, perché Supa Kitchen non diciamolo, sennò faccio una magra figura. Ancora è presto, ancora è presto. Ma le mosche come stanno, le mosche? Ragazzi, domenica, se Dio vuole, la fidanzata va a sciare, ho 12 ore libere. Oh, e vai a sciare, no? Vai a sciare. Va bene, allora, Marco? Io saluto tutti quanti, mi potete trovare nei miei numerosi blog che non ci stanno. Però esatto. Le mie numerose pagine che non ho. Però volendo potete anche andare su Google Plus, dove ci sono io che vengo insultato da William Shatner. Cercare non mi William Shatner viene insultato da te. No, lui insulta me perché motherfucker, non sai che ci chiede chi siamo. Non riesce a capire. Esatto. Che, però anche su Facebook volendo mi trovate. E se no, su Archeologia Videoludica. Se no, perché mi dovete cercare? Insomma, non capisco. Insomma. Infatti, che cazzo volete? Che volete? Perché mi cercate? E Stefano. È morto un'altra volta. Stefano vi saluta a tutti. A tutti quanti. No, ci sei. Non avevo schiacciato la bassa imitazione tua. Non avevo schiacciato il tasto per riattaccare il microfono. È stata una un'idea geniale. Perché tu c'hai i microfoni come quelli delle radio, i baracchini, certo. Devi spingere. Sì, CQ, eccetera, eccetera. Esatto. CQ, sì. No, comunque, io volevo fare volevo salutare e ringraziare tutti chi ci ascolta e chi ha partecipato. Fare anche una piccola digressione. Aspetto il tasto adesso. No. Ma succede? Perché chi parte no, ma lui è minimal. È caduto, ragazzi. Lui voleva salutare. Vabbè, ricordiamo Retrocast. E salutiamo quindi anche Stefano. Ci vediamo il prossimo mese con la prossima puntata, che sarà una puntata interessante sul multiplayer. Attenzione, perché se ovviamente... siete multipli giocatori, mandateci vostre mail, vostre i vostri avventure. curriculum videoludici, così potrete, esatto, potrete partecipare e probabilmente ci riuniremo anche in quella occasione tutti a casa. Mi raccomando, vogliamo tanti like su Facebook, perché dobbiamo arrivare almeno a 100, cazzo, dobbiamo arrivare a 100. Abbiamo superati. No, non lo so, sai. No, abbiamo superati. Veramente, cioè, no, c'è la tristezza. È un po' triste la pagina siamo tristi. Va bene, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao.